sul fatto, ma riesco ad ascoltarti. Sto di auto. Che troppo fastidio, guarda già. Oh, allora sappiate che la portante non è qua, eh. No. Coprirmi lì, per fare un casino. Qua arriva 9:20, a te quando ti arriva? Qua arrivo con lo scalanetto. Con lo scalanetto, però tu sai benissimo che quando arrivi qua io torno a casa del portante e arrivo con lo scala lo stesso. Invece togliendo l'antennino e con l'antennino non arriva, arriva un Santiago di 5 arriva. Quindi è lì qualcuno che sta meccanizzando la e basta passare in fatto per far vedere che lui altrimenti non parlate, non rompete le palle. Che ce lo stiamo provando bene bene, attenzione non rompermi le palle. 7, arriva 7 qua. Attenzione un attimino, avanti. Pietro Gianni, ancora un pochino, chi è quel tipo che stava parlando, che stava a dire parolacce, quello lì è lui? Sono accoppiato, avanti. Sono un po' chiedo le posizioni vostre e poi andiamo a trovarlo noi, lo sto io a trovarlo, non ti preoccupate. K va bene, qui arriva 7 comunque, dai. Ah, la veloce non c'è. Vabbè dai, lo sentiamo con tutto, dai. K, magari riesci a sentirlo tu la tali. Sì, io lo sento l'amico, arriva più forte della portante l'amico. Non male, meno male che ci riesci tu. Lasciami appena pochino, gli altri del servizio. No, davvero coppe di brutto. Quindi da te le posti coordinati, andiamo a trovarlo noi, non vi preoccupate. Così vediamo se abbiamo fatto rompere le scatole. E la controlliamo la concessione. Ok, dai, non c'è problema. Io ti sento bene, comunque, gli altri amici non ti sentono perché ti coprono, io sono in periferia, là, e ti ascolto bene. Arrivi più forte alla portante. Ciao, dai, ciao, ciao, una mezz'oretta, dai, ciao. Ciao, ciao. Qua lo sta coprendo. Io riesco, perché qua la portante arriva a 7, o sto usando un dipolo, qualche cosa che no, che va in una direzione, e cioè nella vostra, perché qua arriva a 7, dai. Come arriva a 9:20? Io sto puntando verso di te, quindi. A che direttiva? Se non è possibile che a me Marghisetti a te arrivi 9:20. Attenzione, non fammi sci in macchina, che lì c'è dava giù il gatto di Cristo. L'altro amico arrivava a 9, figurati. Non lo copriva l'altro amico qua, io lo ascoltavo bene e parlavo tranquillamente. Persone in coma, una cosa. Cosa? Persone in coma. Quale persone? La parecchio tuo. E me? Va bene perché? Se mi sembra di sì. Oh, ho sentito il fischio da parte tua, No, ma già sta andando bene, forse è attraffato, adesso stazionario, non è? dovrebbe andare bene, là. Anzi, lo abbasso ancora un po' di più. Così avanti ai Caraibi, ma così dovrebbe andare bene, sì, dai. Quindi fa un fischietto qua quando parla, quando mette la portante. Ciao. Ti. Comunque confermo, non è qua, perché qua il portatile non arriva neanche, dunque anche avvicinandomi alla situazione non arriva 9, quindi altre 9. Eia, poi tu arrivi benissimo qua, arrivi più di 9, Sherpa. A voi non vi copre assolutamente, né a te, né a Bombolino, né a Gianni, nulla, arriva a 7 qua. Quindi è in altra zona. Qualcuno sicuramente giocando su quel dipolo. Poi sicuramente qualcuno sta facendo giochetti per far fischiare il microfono, questo è qua non fanno. Su banderine scomi. Ma volevo dire all'amico, cioè lui ci sente tutti. Attenzione l'amico. La parola che dimmi? Ha detto Bombolino se li senti tutti a loro. Io poi mi sento benissimo tutto, la portata a me non la fastidio, ho messo un filtro, poi mi sento benissimo. Ok, hai sentito Bombolino? Oh, sì, sì, ho sentito tutto, ho sentito. Sì, sicuramente ha fatto di aiuto perché sicuramente ti batto di segnale. Qua se ne vanno a 5, a me, però non è che siamo così. Basta lasciarlo vanità, lascia a fare, lascia. Dai, quando si stanca. Almeno si avvicina al finale, quindi era finita. Ma non è che è tratteggiata già. Abbiamo voluto, il viaggio non può essere. Diceva sempre ognuno toglie quello che ha detto, se ha ragnatela ha detto perché ragnatela non può togliere. È giusto. E chi è quello? E qualcuno in vena di mettere portante. Ciao Salvatore. Buonasera Salvatore. Ciao Natalia, ciao Gian. Natalia, io anche in qualche modo lo smetto, lo sento molto alto, invece sono dalle parti vostre e mio, già. E a me mi arriva 9.20, a Natalia non 7, a Pierpaolo 9.30. Non lo sarà in macchina, no, per caso. Attenzione l'amico, guarda se vedi qualche macchina o l'antenna. Sì, io Natalia, sono in macchina, perché qua non mi sta arrivando, se a lui arriva 9.20, a me non mi arriva, neanche Sant'Agnino sale, se lo sento sottofondo, quindi è roba che è macchina. A me sente, io li sento bene a tutti, sicuramente in macchina, E magari con qualche portatile, come facevano il periodo di Silvastore, che andava in giro in macchina col portatile di 500. Già, oggi vedete che bella giornata, c'è un sole. Io non sono uscito da casa, alle 11:30 mi sono svegliato. Ma non sto bene, c'è un po' di labirintite, sono andato a alzarmi e avevo un cappuccino, mi sono chiuso la bocca e mi sono chiuso la grumina. È una giornataccia. Ma la pressione è misurata, te va? No. Non ho misurato, perché ho appena mangiato, dopo fra un'ora me la misuro. Misuro tutto. ma non è questa depressione, perché ieri sera ce l'avevo buona la pressione, dopo che ho preso quella pastiglia la pressione è andata a posto. Con quella portante lo sento, guarda, un fruscio leggero leggero, si sente lì già. Sì, non sa che c'è, che c'è un amico nuovo, mi dispiace che abbia sentito questo imbecille qua. È entrato oggi, direttamente dal continente, è un vecchio CB, non so se ti ricordi di tuo. E chi è Ogia? Zorro. Sì, un Zorro me lo ricordo, ma è da molto che manca però. 13 anni e era fuori per lavoro. Adesso è ritornato perché era andato a trasferta qua a Sassi. Benissimo, questo lo vedo in verticale, già lo riconosco pure. Vabbè, ma era adesso, era in frequenza adesso. Ehi, Azzorro, avanti. Ehi, Gamba, buonasera, non ti ho riconosciuto, perché mi sei, scusami. Salvatore Maestrale, avanti, Salvatore, Azzorro ti ha parlato. Quello là lo copre con lui, quello lo copre, purtroppo l'ho sentito, poi ha messo la portante e me l'ha coperto. Comunque, buonasera Zorro, mi hai sentito, ma in che zona è? Perché io non arrivo molto basso qua al carro. Non lo so adesso dove sia, se si è sposato per parlare. Sono qui l'area del sole. Ma sei Zorro? Capito, adesso sei presente, ti ho copiato, buonasera, sì, comunque arrivi un po' basso, magari sei in quel circolatore di palazzi sicuramente. Sono giù un po', sono in macchina, Vabbè, scusa, allora poi ci metterò anche la portata, quindi, dai, riprendi la tariffa. Eia, ma lo sai pure in un round, i faglietti, Saliamo in mezzo canale, Natali, ce l'abbiamo, ci possiamo andare, se vogliamo, e siamo qua a farci fare in questi. E la Zorro non ce l'ha forse il 19 alfa. Sono negativo, 40 normale, basta. Hai capito com'è la situazione? Possiamo andare in 40, vediamo. Quando hai soddisfazione anche per me, se ce l'aveva quei canali, hai capito, Natali? Ehi, cappa. Su 40 andiamo là. Ok, questa è l'H 40. Ci siamo. Ora ci sono, vediamo un po'. Zorro, ci sei? Capo, ci sono anch'io. Dico, tu copri anche meglio, lo sai, perché c'è meno QRM. Quindi ti copri anche meglio. Voi chi c'era? Non so se c'è altra gente, quindi fate l'appello voi, io già, voi prendete tutto l'appello. C'è Natalino, Bombolo, Pierpaolo. Io sono qua. Va bene, Bombolo e Pierpaolo, ci siete. Dove c'è tra Paoletto, te li mangi. Questo è il canale mio, cappa. Ma che fila, ma è sempre a Sassari? No, a Sorso, con la sorella, la sua strada di Sorso abita, quanto mi hanno detto. Non gli è mai venuto il ragione dalla raggia, ne ha bruciato uno o due, sì, intanto. No, non mi è mai venuto perché la sorella non gliene fa niente, lui già lo voleva. Poi adesso qualcuno gli ha chiesto se voleva qualche, lui ha detto di no. Intanto già ne ha bruciato uno, sì, risso Maria. E per forza li bagnavati a si bruciavano per questo. No, ne faceva i russi, passaggi suoi. Oggi ho visto quello che c'ha Natalia in macchina, è bello veramente, piccolo e bello. Quello lì non piglia col più, ha detto che l'altra volta eravamo sotto casa di Roberto, stavo durando col più. E l'abbiamo sentito solo nel pezzo che siamo passati sotto casa sua, arrivati al semaforo non lo sentivamo più. No, ma l'ho visto, è bello, è bello, è compatto, beh, messi fattore, c'è tutto, caro, è bello veramente. C'è processore. Sì, no, bello veramente, adesso vedo. Sì, io l'ho visto su quella, però l'ho accennato, no, oggi l'ho visto di persona, scusa, riprendi la lì che mi racconta una cosa. Sì, ok, non c'è problema. Avanti già. Ma io te lo compro il mio, Salvatore, 350 euro. Qual è? Se no, beh. Io te lo voglio, lo voglio pulito, già mi hai capito. Devo mettere in macchina, non, cioè, non mi serve che ci abbia quel tagliandino dietro. Vabbè. C'ho anche un Milan, non ha ancora tolto, se ti interessa, originale. Vabbè, ma il sai cos'è? Che è grande, quello che lui tra l'altro è compatto, cioè, non prende molto spazio. Cioè per quello c'è un Milan piccolo, quello che c'aveva nel nuovo volume. Non si è arrivato dal centro, c'è tu lì. Non lo so, ma no, che andava bene, però quello che non usava io, ma quello che c'ha la taglia è troppo bello, va. Ma io poi c'è il canale, quindi non diciamo, esce bene. Perché non ti metti l'antenna sul capannone lì? Chiami, per dire, quando esco le ragazze all'officina, se devi chiamare, li chiami via radio. Non sai quante telefonate sprechi in me. Beh, lo so, ma c'è un po' di scatole che poi c'è in mezzo al cagliere. Forse più selettiva o... Oh, già. Ma poi non è che esco su io in macchina adesso. Non ho detto in macchina perché non riesco a usarla, finalmente. Anche perché non usavo... E mi è quello di compagnia, già. Ma ecco, per quello. No, perché se no sarebbe stato utile. Sarebbe stato anche utile. Te l'avresti messo lì, su. Vabbè, che quando sei in ufficio, quando stai lavorando, non è che puoi stare attaccato al baracchino. Ma... E poi al limite meglio mettere i 50 mega, che sono proprio, hanno l'omologazione per quell'uso. Hanno proprio la licenza proprio per usarlo per motivi artigianali. No, aspetta. Anche 140 mega. No, mi sembra i 50, però non è carino, erano i 50 che avevano stati omologati. No, 43, i 50 sono la diamantoria, sono i sinistri, 50 mega. 43 mega, tu vedi? E credo che si usano anche per i mezzi di soccorso. Sì, scusa, hai ragione, sono i 43, sono tutto, sono più uso civile, diciamo, è vero. Ok, no, ci sei? E la parola, io mi sto portando, c'è qualche altra cosa che non mi ricordo adesso, però su altre frequenze, però non mi ricordo, come vedere un pochino, perché io ho comprato degli apparecchi a una Bologna, una società, una casa privata, degli apparecchi particolari. E che apparecchi sono? Lo diamo a Toria? Esatto, un maggio, per dire, ho preso anche un paio di quelli che sono nella guerra. Ah, sei un collezionista? Da due tipo cotoline, ma tutto fanile costa 50 euro su quanto prendo. Cavagare. Già va bene, allora. Se sono funzionati, funziona. Sì, io ho un campagna ancora la direttiva, l'ho provato e fanno, ma non passa bene. E allora hai fatto un affarò. E che frequenze vanno qui? Io ho due che vanno da 0 a 30 e poi gli altri non l'ho controllato, sono quattro ultime fatturate in giro. Ma che vuoi sono? No, il 140 ce l'ho vabbè. Ma comunque è bello, dai. Se funziona non hai fatto l'affarò. Perché adesso ti accoppia anche la 27, così. Ma non ti va a presentare, sicuramente adesso la frequenza è pulita, non voglio in piazza perché si vede che c'è una che manca, una casa e a... quando c'è problema del telefono, non prende il telefono, non prende il telefono. Infatti. Vedi, basta andare sul canale magari... dovresti organizzarti magari degli apparecchi che vanno 10 kHz più in alto oppure che abbiano più canali, ecco, di modo che non ci sia nessuno. Ma no, io ho portato due apparecchi, voglio portare su un canale e basta, solo per me. Ah, capo, ti hai fatto... vabbè, dai, questi scanner già lo sai come succede, possono sempre captare. Sì, il fine continuo va tranquillo, però tanto non sento quasi nessuno lì, qui è solamente un collega, che ha un cervello lì. Vabbè, comunque, organizzate tutto, dai, magari già serve, io per dire, a casa ce l'ho, mia moglie quando trovo da lavorare, qualsiasi cosa vi dovevo dire, mi chiama per radio, sapevo già che ero su quel canale, e via. E già, ma noi lo diamo solo per la gente, mai, non ci parleremo mai, non ci faremo mai. Tutto se si ferma la macchina, che è casino, guarda, mi può stare sotto, dico io la mia macchina, non d'altro. Vai, Salvatore, poi fai girare, dai. Ok, l'ho copiato questa volta, però, diciamo, qualche piccolo passaggio mi è sfuggito. Lo sai che c'è anche tutta la stazione smontata? Quello che vi stavo volendo da me, ho già. Ho capito, sì, ma è quello che ci ascolta ogni tanto. C'è che ci ascolta, lui c'ha il gemello più io, c'ha tutta la Adri che è smontata. Peccato, ragazzi, sto cercando di convincere a darmela, invece non dice che la tiene lì, ho per ricordo che con domani magari la rimette in funzione. Cavagava, vabbè, quando ne ha affezionato magari è... Ma mi ha detto che è una bella lingua. Va a volare, chissà, bisogna una bella adatta. Come bella di figura mia, averla nello scaffale anche. Quelle sono per usare, quelle sì che sono linee, quelle io le sentite andando e quelle vanno, altro che questi sono giocattoli. Ma qua si può volere Natalia, una mia Drake oggi? Un mezzo di nano, però è difficile usare, capito? Ma perché devi accordare devi quando stai usando? Allora se accordo, e non è vicino. Attacco, specchio in comunicazione, ho visto 7.004 che avevano ritirato dalla fiera, l'hanno visto 1.000 e qualche cosa. Sì, sono bene. Sì, io un altro 0.30 me lo busco, già ne ho due qua, ma uno 0.30 me lo busco, un ricevitore lì, un ricevitore era meglio, se buscavo il ricevitore era meglio. Ecco, la firma è tra. Buongiorno, ben ascoltati a tutti, Massimiliano Bolloza vi saluta. Ciao Massimiliano, buonasera. C'è anche Pierpaolo, dai, facciamolo entrare, e anche Falchetto, ho sentito, dai, un attimino Falchetto, facciamo andare a Pierpaolo poi ti fermo. Sì, a voglia mi sento, a voglia. Qui, mani più sul petto, mi risolvi il 90% dei problemi, ok. Sì, affinchi positivi comunque, affinchi positivi. Mi ha accettato un break, fatelo venire avanti. No, buonasera a tutti, sperando che mi ascoltate a me, piccolo piccolo qua nascosto. Ti ascoltiamo lì, buonasera. Luigi. Ciao Salvatore, buonasera. Comunque hai ragione tu, il palchetto adesso arriva più forte, anche a me arriva due sacchi in più e con la radio migliore. Sì, ha migliorato tantissimo, però tu quando avverti, quando devi entrare, avverti, se no mi fai uno smicker la prossima volta. E a te non c'è bisogno, Salvatore. Sai perché? Stavo facendo una prova, ero sui canali sopra, no? E stavo provando con un altro rosmetro, così stazionale e cose del genere. Niente, ma chi è questo? E ha detto, ma sta nel 45, giravo tutti i canali, rigiravo. Ma a un certo punto ho staccato l'antenna e ci sentiva sempre. Ma qua, allora detto, e poi l'ho cercato e l'ho trovato qua. Sì. Per forza, guarda, se ci affacciamo ci diamo la mano. Dai, riprendimi già. Ehi, era io più o meno ci ho capito che sono andato dove la casa era. Beh, ce ne sono solo due antenne a Ottava, una di Luigi e l'altra per esclusione la mia, o già. Allora già lo so. Oh, riprendete un attimino che c'ho il saldatore attaccato, sto finendo di fare una saldatura e adesso devo trovare, rimango qua sul 40, dai, rimango un attimino in ascolto che sto finendo una saldatura di un filo che non mi illuminava più l'apparato dalle luci del coso, ed era il filo staccato e glielo stavo saldando, che chiudo l'apparato e poi riprendo tu, dai, riprendi tu Salvatore, riprendo subito. Ma... però una cosa c'è lui prima di chiudere, perché mi devo spostare un attimino. Beh, quella cosa, quella persona che l'ha mentata si è. Salvato, te lo dico già in cosa, ha fatto una risposta. Tanto imbecille che. Ma aveva messo l'allarme. Leggendo perché Salvato ci ho parlato, sa che non sono io, che non siamo noi. E qualche allarme, qualche cosa che c'è lì, perché io l'altro giorno l'ho chiamato a lui, c'era proprio un disturbo io qua, gliel'ho fatto sentire, l'ho chiamato al telefono, gliel'ho fatto ascoltare al telefono, c'era un allarme forte, trovare qualche cosa che si attiva lì, non lo so cosa sia, comunque niente, perché lui questo problema ce l'ha da un mese a questa parte, ovviamente più di un mese, dai, e quando non ci sono io ce l'ha lo stesso questo problema, capito? Scusa, invece fa la risposta, chiamava a Fiscia la Notizia, quando aveva in giro a cercare questi segnali e non lo parlava nemmeno lui, così lui. Lo so, Salvatore, lo so, infatti oggi, adesso io ero in ascolto, guarda, sono entrato e niente, anzi sono passato un po', non mai perché lui a casa stasera e non corri, siamo queste cuffie, perché nelle cuffie, mi cazzo dalle cuffie, può ascoltare la televisione, non so che cosa, su telecamere, non so come si chiama questa cosa, dai, i problemi sono i suoi, sicuramente, al 99%, però, Salvatore, il problema è un casino per noi, capito? Bisogna stare attenti cosa ci abbiamo noi, se fanno un controllo, ci incasiniamo noi. Senz'altro, senza neanche, senza eccezione, vabbè, ok, riprendi già. Io potevo parlare da chi aveva fatto questo impianto megagalattico, mi dice lui. Magari sono dei vicini cuffie che hanno una radiofrequenza e poi non te le spuri dall'aria. Ma già lo so cosa succede, quando non fa risposta, no, immagina, ti lascio immaginare cosa succede adesso. Sì, ma per fare la risposta lui deve pagare, lo sai, no? Questo qua, deve pagare prima per... E la prima cosa che fanno è controllare la luce, vedrò che per le cuffie manco ci vengono, perché non, secondo me non devi disturbare telefoni e TV, le cuffie proprio non c'entrano nulla con gli esposti che fanno. Scusate un attimo, no, io ho già fatto, cioè, ma lui ha molto conoscenza, questo qua è una cosa esatta, non ha pagato una lira per fare questo, lui ha fatto, e devo intervenire perché lui ha fatto un incontro, l'ha fatto e non ha pagato una lira, non andranno a venire subito, però lui ha fatto questo incontro e loro, sarà intorno lui, comunque lui non ha pagato una lira a Gianni, a al discorso nostro, diciamo, no, dice, io l'ho fatto, ho fatto le due cose, perché lui intanto si è informato da molte conoscenze, vanno lì al bar, finanza, quello e quell'altro, gli hanno detto come fare, cosa fare, perché addirittura questo sforzo lo poteva fare anche, perché mi avevano detto dove andare, dove farlo, lo poteva fare anche in comune questo sforzo, lo sai. Comunque io ti dico una cosa, molte volte con Perpolo passiamo in due vie in macchina e sentiamo questo rumore che disturba la radio. Un rumore sempre fisso, ti ricordi Perpolo quando usciamo da lì da Via Marra per andare, per imboccare lì, per uscire al Ponte Nuovo, lì è Via Luna e Sole. Siccome una volta è successo, poi nella massa ci piangono tutti, hai capito? Ma io me l'aspettavo perché c'era troppo movimento in queste zone, troppo movimento, gente che parlava, gente che era sempre con la testa in su, guardando uscire le antenne. Qua qualsiasi cosa succeda, no, non si manca la corrente elettrica, non è colpa del mezzo, è colpa di lui, per fatto. Ma i televisori, ti posso tutte le cose che tu paghi una tassa, una cosa per usarle, non le cuffie cosa paghi? Io pago una concessione, tu cosa paghi per usare le cuffie? Può essere anche così. però lui mi ha detto la mette in facciata, diciamo, verso, forse dalla parte della finestra, in facciata verso Ussini, Udo, Itri, nel sentito, e allora sicuramente è più aperta dalla parte nostra di Ottava, ecco perché ci arriva meglio, e voi essendo dalla parte opposta arriva di meno Pierpaolo, ecco, ho capito, perché sicuramente c'è il palazzo davanti e gli impedisce l'antenna. Beh, arriva al 9.5, va benissimo, la radio è buona. Allora va bene, che cosa vogliamo di più? Qua addirittura arrivava a 9, ma non è rivenuta un chissà cosa. Non arriva proprio niente qua. Intendo appena dica che cosa, ma no. Tu se fai la proporzione, prima con l'antenna sul tetto mi arrivava a 9.10 e questa qua però ce l'ha attaccata nel terrazzo chissà come e mi arriva a 9.5, quindi vuol dire che arrivi più dell'altro. La proporzione che prima qua mi arrivava e adesso no. Ecco, lo so io. Se vuoi arrivare di no, lo so. Prendo io, mattino andrei che non è subito, no, qua la tappa ha migliorato, devo dire, prima faticava a sentire certi passaggi, adesso facciamo perdere il segnale, ma nel radio è più chiara ed è comprensibile, avanti Roberto. Sì, buonasera, non ho fatto ascolto, ho sentito un attimino Gianni, Antonio, chi c'è poi, il falchetto che mi ha risposto, ciao Salvatore, basta, chi c'è, falchetto l'altro, riprendete. Roberto. Ma tu sei falchetto? Ehi, ma sei più basso da normale, come va? No, stavo provando l'antenna, ce l'ho sul balcone, dai. No, infatti c'è lo scenario diverso. Va bene, dai, chi c'era poi? Gianni, avanti Gianni. Io c'è Robert, dai. Cavagava, c'è Salvatore, c'è Antonio, c'è Pierpaolo, ci sono io, c'era Massimiliano, non ci ha risposto, poi proviamo a chiamarlo. Natalino, Falchetto, e poi mi sarà che parti così. Avanti per chi vuole. E vabbè, ritenetevi tutti i salutati, dai. Avanti Salvatore. Ecco, ma c'è anche Luigi, la riparazione è finita da lui. Grazie Salvatore, perché mi stavo con Gianni, ciao Roberto, con Gianni che si è dimenticato di me, l'ascolto ero. No, sto sempre facendo, sto finendo, no? Ascoltando, ogni tanto rispondo e facendo il lavoretto, no, sto finendo di fare questo lavoretto qua. Riprendi Roberto con la buonasera, e anche il buon anno, mi pare, anche a te buon anno Salvatore, mi pare l'unico che non ci siamo sentiti con te, con tutti gli altri sì, buon anno a te Salvatore. In famiglia e anche a Roberto e in famiglia. E anche a me, anche lui, ciao, non l'ho sentito, diciamo, sono stato un po' da maleducato, avanti Salvatore. Hai ragione, stavolta ci siamo visti lui, per capolano no, contrattando gli auguri anche tutto il correa familiare. Ascolta, volete invece di farlo a casa, fallo a quello che me l'ha esposto, gli metti il cavo intorno al collo e lo tiri lui. Cosa? Non ho capito. Senti, invece di fare lavoro a casa, falla quello che ha fatto l'esposto, gli metti il cavo intorno al collo e glielo tiri, così non ne fa più esposti. Ma troppo grosso, non so se lo conosci, tu quello è troppo grosso, mi sta fatto. No, facciamo in due, così uno lo tiene, uno lo tiene, l'altro non lo fa, lui, ma sto scherzando, faccia quello che vuole, siamo in regola, siamo, dai, non vorreste. Natalino, sì. Natalino ha lasciato il telefono, non penso che si sia addormentato. Ma io che hanno mandato risposto, raccontate me la novità. E sono qua! Ah, ci sei, sì, anche te. Militando a quello che ci siamo detti, Stabbi. Niente, vabbè, che qualcuno c'ha dell'interferenza nelle sue cuffie, ed è convinto che siamo noi che parliamo alla radio. Purtroppo non è che ce ne sono tutti, con Stabba che parlava alla radio, siamo in due, e quindi facciamo questo sposto, indovina che ti verranno a controllare. No, sicuramente né a te né a Luigi. Voglio saperlo che non saperlo. Ok, dai. Tu c'è Natalino, ma davanti a Natalino io sempre. Ti ho detto che l'ha fatto l'esposto, Salvatore. L'ho detto a Luigi, quello che l'ha fatto. L'ha detto proprio. Sì, non beh, uno che c'ho qua a fianco, me l'ha detto da tempo, in coso mi ha detto, mi ha chiesto, dice, non è che tu hai modificato qualcosa, perché da un, è un mese e mezzo circa che lui c'ha questo, prima non ce l'aveva questo problema, io non ho modificato niente, non ho potenziato niente, ci ha potenziato qualcosa, io ho questi disturbi così e così. Io non ho fatto niente di niente, poi gli ho detto sicuramente qualche impianto di allarme, qualche sistema d'allarme che ci avvicino, perché l'altro giorno ti ho detto una cosa, qua da me non si faceva ascoltare la radio, non sabato, l'ho acceso qua e c'era questo tipo un allarme forte, non riusciva a ascoltare nessuno a Baracchino, proprio qui. Allora cosa ho fatto? Ho preso la vettura e sono uscito. Come sono uscito da casa, ho preso la via per salire verso la te, spariva il segnale. Facevo il giro, sai dove c'è il campo sportivo lì, per tornare indietro verso la 131, girando lì. Da lì iniziava piano piano, come sono arrivato, all'altezza dove c'è... cosa c'è lì? Prima di arrivare alla 131, dove c'è Madito, dove c'è abitava il poliziotto, via dice, lì iniziava a segnare, lì era forte, questa cosa faceva un suono proprio, ma enorme. Sono arrivato sino al bar, là, in vettura, e lì quasi sentiva più leggero, hai capito? Questo segnale. E niente, gliel'ho fatto ascoltare, se vuoi venire ti fai un giro con me, ti porto proprio questo vicino a questo gruppo di case, che ci dice questo suono proprio, questo disturbo forte, se è questo disturbo, gliel'ho fatto ascoltare, sentiva leggero, ho acceso il baracchino, ho visto come sono la macchina vicino al bar, dice più o meno c'è questo il disturbo, allora c'è qualche allarme che c'è, qualche cosa che c'è qua vicino, c'è comunque, dice, ancora non aveva fatto l'esposto e poi l'altro giorno mi ha detto, dice sì, perché se ne è informato di tutto, ha fatto questo esposto perché lui dice non riesce la notte, questo impianto, questo sistema con le cuffie che tutta la casa lui può girare con queste cuffie, ha preso un cagnone di soldi, ma io non sono stato lì a discutere perché tanto le cuffie non le può, non è ammesso perché le cuffie così senza fili, tutte le radiofrequenze, tutte le porcherie te le porta dietro, se c'è cosa vicino se le fa, anche se hanno qualche impianto d'allarme loro se lo portano dietro. È vero, Luigi? Sì. Io non voglio pensare male, perché è un po' difficile che sia quello che dico io. Però siccome voi avete vicino a pochi chilometri della RAI, sarà un 2-3 chilometri da voi, c'è il ponte ripetitore della RAI in onde medie, e c'è una potenza abbastanza rilevante. Non vorrei che ci sia qualche problema da loro, e per cui questo disturbo, se continuo, può essere anche da loro. Ma di lì vi lasciano con misuratore di campo e misurare tutto quanto dove cade la... Quella deve essere qualche spuria di qualche... Se va l'allarme è impossibile, perché se va l'allarme non è così forte, c'ha potenza, è molto ma molto limitata, e poi lo identifichi subito, lo trovi subito, ti avvicini, tu ti stai parlando di una cosa in un arco di spazio molto grande. Te lo sentivo, no, ma io non lo so, io vabbè, perché qua ci sono, siamo in mezzo a tre antenne di telefonino, ci abbiamo la OMIT e tutti i telefoni e più c'è la WIN. La Windy ci abbiamo lì, che è al figlio di Frattamona, ce l'abbiamo in direzione tutti e due, uno in fila all'altra. Quelli lavorano 800 MHz, magari può cadere anche qualche spuria sul coso, sulla frequenza di cuffia, di questa radio cuffia, questo non lavora intorno alle 500 o 700 MHz, frequenze così. Se devi dire una sassa, rinesce in tomba di quella porcheria. Però già non l'ho sentita qua, ripeto, Robe. Ma ripeto, mi sposto qua in stazione, io ho acceso, ma sentivo questo, ma non mi era mai capitato, avevo sentito altre volte questi disturbi, però pensando che fosse. E ho detto, ma voi le ascoltate, ho detto, chi c'era, adesso mi ricordo chi c'era, se c'era chi fosse il giorno, ho detto, ma ascoltate questi disturbi, voi cioè, no, non ce ne disturbi qua, ma non facevo fatica. Allora cosa ho fatto? Ho preso la vettura, ho acceso il sentito, ho fatto un giro, entro da casa. Salgo verso Salvatore, manda la via mia, adesso salendo per fare il giro a vedere dove era più forte questo segnale, e lì è sparito completamente, no, era quasi invisibile. Poi ho rigirato all'angolo, invece di andare verso Salvatore, andando sulla destra, verso il campo sportivo, e si sentiva un po' di più. Poi ho girato verso la traversa che va verso la 131, nuovamente c'era un punto che era forte, proprio che insordante, che si addormentava proprio a ascoltarlo. vabbè, in fila c'è questa antenna della Windows, cioè, però c'è questa abitazione, sicuramente qualche allarme, qualche sistema d'allarme che c'è lì. Allora Luigi, scusate un attimino se facciamo un pulio. Allora le cuffie sensanti, io qua c'ho tutte le frequenze dei ripetitori, le cuffie sensanti li lavorano dagli 863-300 agli 864-700, la telefonia cellulare lavora dagli 880 ai 915 MHz, sono molto vicini questi segnali, per cui probabilmente, siccome sono molto vicini a dove abita questa persona, mi sta dicendo tu questi punti nuovi che hanno messo, probabilmente può essere anche la rete cellulare che sta disumando questi punti che hanno messo nuovi. Quel cavolo di cose, Robe, buonasera. Quel cavolo di cose che prendono il segnale dalle parabole, quegli affari lì. Se giri in giro per Sassari, lo senti quel rumoraggio? E questo qua fa, Robe, proprio... Un attimino. Così, che lo fa, li punti dove c'è la chiesa, la farmacia. E lì c'è sempre continuo. Come, fai avanti un attimo. Questo no, infatti sei molto più basso del solito, cioè prima eri quasi 9,40, 9,35, adesso sei 9,20. Sì, grazie, sono Giuseppe, un saluto a tutti. Sì, ciao Giuseppe, ben sentito, non ti ricordo tutti che siamo tanti, se dico quelli che mi ricordo la memoria, c'è Luigi, Salvatore, Falchetto, Gianni, Nattalino, Antonio... E buon cuore, no, avanti chi vuole entrare, riprenditi la Gianni, che è riposto. Attento Roberto. Ehi, ciao Giuseppe. Ti fate va bene adesso. E cordialità. Hai messo a posto il posto? Ma mi auguro di sì, come sto uscendo? Adesso di lusso, adesso va bene. Va benissimo. Perlomeno da me arrivo fino a 20:10, l'anno 10:05. È abbastanza buono il segnale. Cosa hai fatto? Niente, stamattina sono dovuto scendere giù in stabilimento e ho portato su il 48 e adesso sto modulando con lui, quindi il problema era il 100. Ah, era il baracchino, mi sembrava strana la situazione, ci avevi fatto tutto bene, il 48 va bene. Di lusso, voi come lo sentite l'amico Giuseppe? Da me 9 più 15, perfetto, ma come dire, Giuseppe di ieri, quello era basso basso. Ahia. Bravo, perfetto, ma ti sei spostato di zona, Giuseppe? No, io sono a casa, sto modulando con la Storm 27, stavo impazzendo da ieri sera cercando di sistemarla a cambio. E poi Giuseppe giù a Catropole, guarda lì. Positivo. Ha detto Bobby. Sì, aspetta un attimo. Sì, sì, sta andando alla grande, perfetto, di segnale di radio. E avanti, facciamo. Più pulita, adesso sto uscendo meglio. Adesso sei tu 9,35, infatti è molto più basso prima. No, sto trovando un'antenna, capito? Adesso sono andato in PL qua di nuovo e ho rimesso l'antenna già sul tetto, vai. Ma invece, Robe, qua è calato il brutto, Falchetto, quando è attaccato quella là è sceso di 2 punti, per l'altro a Santiago 3, poco fa mi arrivava a Santiago 5 con la bella radio, adesso è sceso il brutto, è messa male quella turbo 2001 sicuramente. Ma forse non l'hai messa qualche? No, ero da casa, ero sul davanzale della finestra. Ah, no, così non va bene, la metti bene, no, la gabbia. Ci metti a di metterla, come ha detto Gianni, sul petto, ti fai un'altra fettina e provi un po'. Ehi, devo fare, dai, no, non ti metto l'antenna che c'era prima, dai. Qua adesso arrivi, Stai arrivando Santiago 8 e Radio 5. Capo, anche Giuseppe qua sta arrivando oggi, Santiago 9:10 e Radio 5. Oh, benissimo, era ora finalmente di uscire in grazia di Dio e sentire anche girare gli amici, cambio. Capo, adesso non siamo pronti a Giuseppe. Una cosa volevo chiedere a tutti quanti, siccome qualche giorno fa c'era una persona che ha chiesto se si poteva lasciare libero il canale 40, in quanto hanno operato da alcuni agricoltori per lavorare, se era possibile lasciarlo. Non c'è problema da parte mia. Pierpa, siccome quelle che oggi abbiamo detto, ha detto che sta piovendo e non stanno lavorando ed è libero, possiamo stare tranquilli oggi, capito? Papa, va bene, io mi ritiro, ce la risentiamo le prossime, ciao a tutti. No, Pierpa, non è stato... noi ci sono questi agricoltori, ma non ci sono oggi, dai. Oggi sta piovendo, l'abbiamo trovati prima San Giovanni e stanno, non stanno lavorando oggi, allora non c'è problema. Sono il raccoglitore di Luacchio oggi. Commento e buona giornata. Comunque ci siamo spostati solo perché ci stava disturbando la porta di quello là. Possiamo andare sul 21 di nuovo, non c'è problema, il nostro canale è il 21. Andiamo lì. Allora, cosa facciamo? Andiamo tutti sul 21? Ah, vai. E io non ci ho pensato, io sono passato perché ci stava disturbando uno con la portante, ci siamo spostati, infatti da lì non c'è più seguito, deve essere il 40 non ce l'ha, è neanche un miserabile. No Gianni, probabilmente ve lo dico subito, eravate troppo vicino di canale dove erano loro e gli stavate dando fastidio. Nel 40 siete più lontano, siamo essendo più lontano, non gli state dando fastidio, è tutto qua secondo me. L'ha fatto per un bel po' poi, gli è passata dell'essere. Non so, vai, andate su 21, se vedi che lo fanno vuol dire che c'è qualcuno parlando vicino e stavamo dando fastidio. Vai sul 21, andate, andiamo tutti sul 21. Sono incontrati, sì. Ehi, Anatoli, cos'è? C'è qualcuno? Vabbè, c'è sì. Sì, ma subito un attimino, ma come stanno facendo tutti questi brinchi di canale? Noi ce l'avevamo prima a stanza del canale 10, come era questo andare al 21, poi al 40, al 45, come va? E la sarà lo stesso, lo stesso. A me va bene tutto già, però dico, anche se ci ascolta qualcuno, dico, qualcuno per vedere alcuni, diciamo, mi, che a stanza siamo sul canale 10, come ci spostiamo continuamente, non ho mai capito. Ci sono stati dei vari motivi e ci siamo dovuti spostare, dai. Non sto qua a elencare tutte le cose, però ci sono stati dei motivi se ci siamo spostati. Adesso siamo sul 21, rimaniamo sul 21 e buonanotte. Se ci spostiamo al 21 è perché ci disturbano, perché c'è qualche problema. Tutto lì. Gianni, dai, dicemi questi motivi, almeno qui ci abbiamo un po' di argomento da parlare, dai, dici questi motivi. No, io non sono una persona pettegola, mi piace farmi gli affari lì, non sono di quelli qua, qua, qua. Sì, vabbè, ma almeno abbiamo trovato a parlare, dai, aiuto. Dai, così ci abbiamo un po' di un carne al fuoco, mettiamo. Mi piace come fa la gente a me. Dove? Appa, avanti. Pierpaolo, ci sei, ci hai seguito. No, Pierpaolo ha chiuso, ha detto. E Antonio? Ciao, ci sono già. Però adesso 5 minuti mi faccio un tipolino perché sono stanco. Poi rimango l'ascolto e mi sento. Fate voi, dai. Ci sentiamo tra un po'. Dai, tranquillo, Antonio, riposati, vai, ciao. Cavagava. Avanti, Farchi. Gianni, sto facendo meglio adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. E a voglia, sì, esci meno. Ma devi contare che una è sul tetto e l'altra è atterrata. Per fare la prova giusta devi mettere atterrata anche quella, allo stesso livello dell'altra antenna, allora mi puoi dire sì. È vero, esce meglio quella lì o quella là. La parola, sì, adesso come finisce questa. Figlio, cuore, però se scelgo male. Era ora di uscire bene, ieri sera stavo perdendo, anzi, fino a ieri notte stavo perdendo i sentimenti perché pensavo che il difetto fosse su. Se arrivano qui, ce l'arrivi più forte tu di me, che hai un antennino piccolo, io c'ho la mantova, c'ho la mantova di sentimenti e passa. 9:15 ci sta arrivando qua. Radio 5. Ma va bene, è un po' troppo senso, già ne è vicino a te, io non riesco a capire questi segnali qua, boh. Così l'altro giorno, ieri, lo stesso lui lo sentiva più basso di me, eppure è molto più vicino di me, Gianni. Aspetta, Roberto, ma dipende la scelta da magari che palazzi già, che non palazzi non già, non ci vuole niente a cambiare. Per me il segnale è sempre lì, invece, non dici di me come mi fa, non voglio dire niente. Giuseppe, buonasera, Salvatore, con la Papa come ti arriviamo invece noi? Non ho capito, gentilmente puoi ripetere Salvatore, cambio. Papa, ti chiedevamo da Papa invece come arrivavo come segnale. Allora, tu stai arrivando con un Santiago 5 e con un 3 di radio, cambio. Beh, a posto, vedi Roberto, eppure in linea dovrei essere aperto verso di lui, ma voleva vedere come ci ha messo l'antenna, Giuseppe. Bravato. Allora, abbiamo fatto un esempio, adesso che è sul tetto, lo ascoltiamo, ma molto più basso di radio e di segnale. E vedi che c'è qualcosa che non va bene. Comunque sta notando anche a Giuseppe che forse è l'unico che non ho salutato, è Giuseppe. C'è problema, vai tranquillo, rinnovo anch'io i saluti, grazie. E mai capito chi sono? No, non ho capito chi sono, però per educazione è sempre bello salutarci, cambio. È positivo, sono quel ragazzo con i baffi, capito? Quel ragazzo con i baffi col Mercedes rosso. Col Mercedes rosso, fammi capire un po'. È quello che ti manda lo Smith al massimo quando cerchi di superarmi, salito che ti supero io. Ah, ho capito. Davanti, questo lavora vicino alla Temi, dove c'è quella vetreria, quel coso del vetri. No, ma qualche volta entra anche la lettera, andare a Tunisi, va bene, meglio così. Così alla prima occasione lo conosco di persona. No, ma è strano perché, ripeto, sì, Franchetto arrivava molto meglio a lui con quell'antenna lì che adesso è attaccato l'altra. E io che arrivo Radio 3 a sacco fuori, mi sembra, ecco, con lì tu di riferimento, vabbè, ma non ha voglia che quando faccio DS Radio 3, pensa tu, vuol dire che lì c'è qualche ostacolo che mi crea problemi arrivare a sacco fuori. Ho salvato. Dimmi, Giuseppe. Non so, forse il tempo, però adesso sei salito di colpo a Radio 5. Ma per me c'è, ripeto, il problema sono le antenne, il problema sono la posizione come si tenessi, perché ripeto, abbiamo fatto dei calcoli con Falchetto, che montando due tipi di diverse antenne, a noi che siamo più lontano ci arriva meglio addirittura, e a quelli di Sassari che sono più vicino gli arriva a peggio, quindi vabbè, adesso ci stiamo incartando per queste cose, ce ne freghiamo, il fatto è sentirci. Ripeti Natalie, ripeti tu, metti un momento Natalie, là. Ui, Gianca. Vediamo un po', Giuseppe, guarda, io non lo so neanche quanto sto scendo, però sono basso come tutto. Io che radio sarà al minimo radio di 3, a 5 questa mia, come sono messo adesso non ci arriva. Dammi un segnale così come sono messo adesso. Allora, adesso sei messo di Santiago quasi 3, radio 2, cambio. Va benissimo perché se metti così la radio ha aumentato, giusto? È positivo. Ma allora, interessante, se tu mi ascolti così, guarda, in questa posizione io lo lascio così. Sì, va bene così, ti sento forte e chiaro, cambio. Interessante che tu mi ascolti, non mi interessa che sia molto alto di Santiago di cose, interessante che tu riesci a capirmi bene, poi che riusciamo a sentirci tutti quanti e poi non c'è problema, non c'è bisogno di sollevare, capito, davanti, di sollevare molto, non si sa mai. No, Catena, anch'io, guarda, mi sono abbassato piano piano proprio per arrivare a farmi ascoltare in giù. Vediamo un po', ma sto lavorando pochissimo. Va bene, quanto faccio nel staccare? C'è vincendo? Non lo so, era una bella partita, ho visto un pezzettino, io che stavo vincendo 1-0, ho visto. Poi l'avevo messo dormito, mi fanno, quando mi ha chiamato, Salvatore. Vabbè, c'è stato stanco la stamattina, insomma. C'è sempre una fatica andare a fare partita, vabbè. No, non è quello il problema, mattina, no? Quando sono abituato, adesso dice che mi ricordate e mi sveglio tardi, invece nulla, mi sono collegato, come si chiama, presto, relativamente, sono state le 11, ho aumentato, e adesso sono già sveglio. Hai visto? E invece, meglio il giacchio che si è alzato, tu, diglielo, diglielo. Dai, ho aumentato, sì. È stato un piacere di ascoltarti Marco, ti saluto con il 73, saluto per QRA. Chi le sta ascoltando via terra? C'è Marco, quello della Liguria. No, no. Le salutavo a Marco chi? C'è un Marco che qualche anno fa che si faceva sentire qua, dai, con... che entrava con cosa, con, forse anche con Roberto, con Walter, Salvucci, via dicendo, lo stesso Marco, no? Ci vuole cosa dice? Io ho parlato con le nepiti piccolino. Così sì, con Marco lo sentivo lì io. E aveva la direttiva, ti puntava la direttiva dove eri tu e ti sentiva, oh, a voglia che ti tirava fuori. E ho detto, ma sto arrivando con cosa, con Portatirino. Dice, sì, sì, mi arrivi, non fortissimo, però mi arrivi. E ho fatto quanto anche io, da. Ma quello della Liguria era, ho sbagliato, mi sto. Della Liguria, l'amico di Vittorio Giove, della figlia, della moglie, si conoscono molto bene, poi sono andati anche là a trovarlo. E poi sentivo, quando comunque sto dicendo quel Marco lì, dai, arrivava benissimo, o quel portatelino, io lo ascoltavo qua benissimo, qui a Ottava. Sì, ma questi che stavo ascoltando io erano i 40.000, tutto di quello. Ha detto Vulcano? Ma che? Le cuffie? Sì. Positivo, ma che? Già ti ascolto bene. Ma insomma già ti ascolto. Capito? Invece per Ottava eri più positivo con quell'antenna 2001, capito? Arrivavi più forte o la radio più forte? Trappa di rosa, lo fai girare. Ma lui, se tu ecco, parli da casa e poi sempre la stessa, cioè sotto casa c'hai la barra pesante, parli con quell'antenna che hai, con quella parte che è la barra pesante, mi fai i segnali di là, no? Con l'antenna di casa tu dici, e io penso, no, questa forse riceve meglio. Sì, ma è capitato perché magari eri sotto casa e parlavi con qualcuno per avere la, diciamo, per sapere che segnale stava arrivando. E già l'ho fatto. Aspetta, lo potrei fare anche, vabbè, bisogna farlo da Sassari, però. Voglio dire, lo posso vedere anche in vettura, lo posso verificare, capito? Però il segnale è più forte qua, con l'antenna sopra il tetto è più forte. Sì, ma penso che anche quello che quando esce dalla barra pesante non sia leggero il segnale. C'è la barra antenna, sai, qua c'è anche tu la 2001, c'è sulla barra pesante. Ho già la 5000 turbo io, Salvatore. Meglio ancora, quindi era perché dicevamo che la 2001 turbo lavora bene, non dico quanto l'avanzo, ma lavora bene. Sì, positivo, Salvatore, ma ho fatto già le prove, io ce l'ho 2001, ho la K2 io, la K2 che è un'antenna bella robusta e stesso, ma la 5000 turbo è leggermente, non so se conosci la 3000, c'è la 3000 turbo, c'è la 2001, c'è la 3000, non so se la conosci la 3000, l'hai mai vista la 3000 quella nera? No, negativo lui, quello non l'ho mai vista. E quella c'era anche Pulsar, ma costa 100, ne vuole 120 euro. E io ho una 5000 turbo che l'avevo fatta arrivare da Reggio Emilia, l'avevo fatta arrivare quella lì. Poi da quella lì, la mia, l'avevo fatta arrivare una ventina di quelle antenne, le sono state tutte vendute, l'hanno vendute facilmente. I miei amici miei ce l'hanno quelle antenne perché le ho fatte avere io. E una volta l'ho piantata, ce l'ho già, io da stessa 5 anni questa 5000 turbo, sabato. E ti dico una cosa, che mi trovo meglio dal 2001, perché dal 2001 ce l'ho, io l'ho provata sotto un giorno lì a Bologna, mi sono fermato e stavo parlando a Buduso con l'amico Pinuccio Moro, il progetto Moro a Buduso, e lo ascoltavo un po' a fatica e lui mi ascoltava un po' meno. Io poi ho fatto la prova, siccome le basette sono identiche, ho messo subito la 5000 turbo, ecco, riuscivo a ascoltarlo meglio e lui mi riceveva molto meglio. Vicino me. Ma l'ho già fatto, te l'ho fatto, con Luca, non so se c'era anche Gianni Lupiurru un giorno lì da Campeda, dopo ma come mi sono fermato, ho fatto le prove, attaccavo e attaccavo l'altra, e facevo, mi sono fermato con Luca e facevo le prove, da Campeda, La K2 è quella grossa del fanno pure lui? Sì, è la K2, si chiama la K2, che tra l'altro col cavo leggermente più grosso in dotazione la K2, capito? C'ho anche il cavo, io c'ho, non c'ho il cuore cavo normale che ti dà 2000 euro, io c'ho l'altro cavo leggermente più grosso che ti dà la 5000 turbo e la K2 ti dà quel cavo leggermente più grosso, capito? E io ho visto la fotografia, c'è anche lo stilo più grosso, da 4 a 6 mm. È grosso, io ce l'ho qua davanti a me, mi guarderà, ho la 2001 e la K2 ce l'ho qua davanti a me adesso, che ce l'ho qua, e la K2 è molto più grossa, ma molto più grosso della 2001, è grossissimo, è grossissimo, quello che ho io la 5000 è grossissimo, oddio. Anch'io ce l'ho grosso. Ma quello non serve a niente, quello tuo. Lui, la massima, cioè la distanza più lontano che senti passare, cioè dove sei, la Campeda? Allora, la distanza, ti dico una cosa, Salvatore, tu non ci crederai. Io da Santa Giusta dal porto industriale di Orestano, se c'è questo fattore Peppirillo qua a Palmadura, ecco, da lì è apertissimo, io riesco a parlare con Salvatore Pirillo, addirittura riesco a parlare con lui tanti giorni, se tipo questo mi chiamava passo passo, io insieme a un altro, lì addirittura ero fermo lì a Marrubio. Sono partito da Marrubio, da dove c'è la Samuele lì, vicino a Terralba, e sentivo questo che mi chiamava passo, ed era Salvatore, Buretta, questo Salvatore che c'è Pirillo, là, che c'è qua a Palmato. Per da lì quella zona lì, è tutta aperta verso quella zona lì, capito? Verso Palmato, quella zona, quella Monte Nulla, quello per chiamare lì, è libero, l'ascolti, da lì io ricevo bene, capito? E mi ascoltano, riesco a parlare, io dalla zona di Oristano addirittura, da molto prima di Oristano. Chiedo scusa a lui, ma ciao, sono Giuseppe, ma con quanti watt stai uscendo dal camion? Ma tu fai delle domande, Giuseppe, mi fai delle domande. Uno ieri mi chiamava da Alghero, mi sentiva, poi l'ho incrociato ieri mattina, senza dire bugie, ed ero ma com'è, figlio di cosa, ma com'è. E questo mi c'era Falchetto anche, e lui mi ascoltava, poi l'ho incrociato. E ti dico una cosa, Falchetto con l'antenna come ci ha detto Salvatore, tu non ci crederai. Io sono entrato in provincia di Nuoro ieri mattina e lo sentivo ancora, con quell'antenna che qua, guarda, non arriva l'ottava, lo sentivo più forte lì a Campeda. No, ma chi si apporta la prestazione internazionale è forte. Se ci si tranquillo, guarda, veramente, se ne frega una barba con la stazione fissa. Io non ho distante lì quello che stava dicendo. Quello che stava dicendo Luigi. Quello che stava dicendo che parlava Luigi è distante lì, guarda che nell'aria siamo meno distanti lì. Vabbè, però c'è da dire che Monte Nulla è tutto aperto, qui verso l'Istano non c'è niente, non ci sono ostacoli, cacchio. È come che sei sul mare, che spari sul mare, diciamo saranno 100 km, però è in aria aperta, non c'è nessun ostacolo. E il Falchetto, io gli ho detto, se si mette la manta, ma in quella posizione di lui si faccia un bel di gente, c'è tutta la zona verso Macomè, probabilmente diventa più forte di tutti, che non ha nessun ostacolo, lui entra in quel canale di coso, del cementificio pulito, come quando c'era Claudio al ponte su, da Pomegna al ponte. Dal grattacielo, da quella zona lì, se lui è apertissimo, se riesce a mettersi la mano va a ammazzare tutti, non parliamo poi di Alghero, così anche Antonello Compugna, se loro ci mettono la mano va tutta la zona di coso, di la 131 sino a Marcomello, arrivano puliti. Sì, era arrivata ottana dalla macchina, a Roberto Rapido, 9.5. Oh Gianni, te ne dico una, guarda, sempre da Ottana, dentro Leniche, dentro Leniche di Ottana, io cosa che non credevo, parlavo, ma un segnale con segnale di un Santiago 5 e Santiago 6, Salvatore Pirillo, sempre da Palmadura. Ci sono tutti quei monti. Ma spiegami tu la distanza col posto lì di Ossana. Dimmi tu come fa. Beh, io lo sento. Ci parlavamo tranquillamente, ma chiari chiari. E un giorno non ci credevo, un giorno è entrato Walter Salvucci. Ed ero lì a Ossana, ho detto, ma non fai, ma ho un segnale, oh Salvatore, 9:20, 9:15, 9:20, Walter Salvucci. Ma come fa, ha detto, può arrivare? Dice, io sono lì, nel bunker qui dove c'era lui. Ma sai come mi arrivava a Walter? Ed è anche a Ossana ci sono i monti, ha ragione, vabbè. E la stazione è buona, quindi antenna, come dicevamo, sente e va. Io sono arrivato da Usilo, però è a Ossana 9:05, ero su a Usilo, era portata più alta. Se invece deve venire con un'altra, da Ploaghe, lì dal Vito su di Ploaghe, no? C'è Ploaghe, prima di prendere la discesa del San Cagliari, quel pezzo arrivando lì a Ploaghe, dopo il video di Azzara lì, ma lo sai tu quando c'è qualcuno, o Giovannino l'originale, qualcuno, e noi siamo in zona di Oristano, e lui è quel punto lì, chiaro chiaro lo ascolti, chiaro, ma cosa vuol dire chiaro chiaro? Sono dei punti che anche quel punto prima di scendere di Prolina sulla 131, se c'è qualcuno lì a Macomera, cosa fa, lo senti benissimo, è tempio, quelle zone lì. Sono dei punti che sono un po' alti, capito? Magari c'è il vasto dove passano bene le onde. Sto dicendo, dove lavora Salvatore Birillo, quella zona verso Palmaro, al lago di Paras, come lo vuoi chiamare lì, dove sono quelle case. Tu, quello tu lo senti, Oristano, Santa Giusta, tu lo senti benissimo. E ti dico, da Ossana, il punto dentro Ossana arriva benissimo, da quella zona lì però, non mi cercare altre zone perché non ci arrivano. Però da Ossana, io non so, ci sarà qualche passaggio, non te lo so dire, però lui mi ascolta e io ascolto a lui, va benissimo. Sono dei punti che... se c'è propagazione, lì a Ossana, io parlo di Cellini, che quel posto lì, se c'è propagazione, è una cosa micidiale, riesce a parlare con tutti e gli altri, a volte non ci riesco e tu da lì parli con tutti. Io un giorno ero lì, aspetta detto che salgo su Campeda, come mi sono spostato da quel posto lì, è finito, non sono riuscito più a parlare con nessuno. Ma non so per quale motivo, lui? Che non lo so, Roberto. Ma tu non hai notato cosa c'è di roba di tralice, di cose del genere, lì ti fanno da riflessione, ti fanno da specchio, è come se ti metti in una parabolica di gente, ti fa da specchio, per quello che lavora bene, poi è tutto pieno di tralici di alta tensione, cose del genere, e ti fa da riflettore. Io so un'altra cosa invece, Roberto, e ti dico, e lì non è bugia, quando io vado a Macchiarito alle Saline, o se no se vado a Sant'Antioco. Alle Saline e Sant'Antioco. Dalle Saline e Sant'Antioco, se c'era mio avvolto Giovannino rientra e faceva i viaggi di Sassia da Oristano, a Macomer, sulla 131 o Campeda, ci parlavamo chiari, chiari, chiari, chiari. Sai quante volte mi rispondono a Sant'Antioco da Carbonia quando sono lì a Campeda a Macomer? Però da Sant'Antioco proprio riesce a parlare con tutti perché c'è le riprese, non so, le onde, il mare, cosa vuoi che ti dica? Sì, chi non ha mai sentito che abbia parlato con Tempio, considerato che il Tempio è molto alto, mai sentito uno che abbia parlato con Tempio. Io ci parlo quasi tutte, adesso in questo periodo quasi tutte le mattine, io quando tu basta che superi Florinasa, mi accompagna fino a Piero Focaccia, che va a caricare l'acqua che poi scende a Tempio, mi accompagna tutte le mattine di solito, mi accompagna fino a Colle d'Asino, fino a quando non scende da Tempio. Ed è tutta aperta, ma con baracchino normale parliamo come siamo uno attaccato all'altro. Ma con Sacchia di Tempio ha ragione Roberto, non ho mai sentito nessuno a Tempio io. No, da qui no, ma dopo Florinasa sì, da Florinasa in poi vai tranquillo tu, con Tempio. In quest'anno perché ha ragione Roberto, in quest'anno perché dovrebbe essere abbastanza alto Tempio, non ci sono stazioni fisse a Tempio lì. No, stazione fissa non ce n'è neanche io perché non ne sento neanche io, tranne che questo Piero Focaccia che è della zona di Santa Maria Covina, che la mattina presto va a caricare l'acqua, quel camion che portano l'acqua in giro, che qualcuno è venuto, se lui va a Olbia, c'è il posto che va lì a Olbia, e la mattina lo sento da lì, da Giuseppe, sta caricando l'acqua, mentre scarica la botte si fa la chiacchierata, ma parla con tutti che hanno baracchini normali, che sono sulla 131 andando verso Cagliari, tu lo prendi da Frulina, da puoi parlare tranquillamente, sino, non c'è posto che, sino a Polilattino, io a volte, capita lì, lo sento, sino lì sempre tranquillamente, ma basta un baracchino normale, non c'è bisogno, perché è molto alto lì, dai, è aperto verso quella zona di Oristano, ora. Sì, Robert. Io con Claudio da Casaria e lui in macchina sua conosceva la cosa, la Volvo, e tutto il percorso, sacca di perfuga, io non lo perdevo mai, e lui mi dava sempre il controllo di intorno a 9, io sentivo 9 di 8, arrivava anche più forte di 8, e lui mi sentiva tutto il tragitto sino a perfuga, non riuscivo mai a prenderlo. Ma Claudio cosa ci aveva la Volvo? Ci aveva un apparato di mietto. No, ma non è solo fattisi sentire, lui mi ascoltava e mi rispondeva, perché tu ti puoi mettere anche mille vacche, però se poi non mi ascolti è inutile, lui mi ascoltava e mi rispondeva. Sì, ma c'aveva una buona antenna, piccolina, ma ottima quell'antenna che c'aveva Claudio, era una piccola come antenna, ma era un'ottima antenna che c'aveva Claudio, è sotto. Infatti io sto dicendo, molte volte l'antenna non c'entrava le dimensioni di queste dalle macchine, quella del Salvataudio, che era piccolina, non so se confrontata con la Turbo 2001, non lo so, però confrontata ad altre antenne più grandi che hanno fatto delle prove, ho visto che andavano alla meraviglia, infatti ho detto, mettendomi un'antennina nel camper, mi metto una di quelle di Salvataudio, piccolina però efficiente, la Turbo 2001 è un barazzone a casa. No, nel campo bisogna stare attenti come l'ha messa l'antenna. Allora c'era un ragazzo qua di Ottava che l'ha messa. L'ha messa prima una di quelle più piccoline, una tipo magno, era una magno appresso. L'ha messa e secondo Givan Asino, e io dicevo non è problema d'antenna, è problema dell'apparato. Ha preso uno di quegli apparatini piccolini, con quei microfoni piccolini e esce tutto un asino. Non è preso, no, ma una cosa e l'altra, mi sono 2000 euro, va, ci compra 2001, nuova, l'attacca dal parafango, e dal parafango del camper, perché tutto il residence è il camper sopra, ecco, e cosa ha fatto? L'ha messa proprio vicino alla, dove sale, dove c'è il coso della, del camper, della resina, no? A fianco sale l'antenna. E gli ha detto, così detto, ti impedisce tutto. E in effetti cosa succede? Che c'è un sacco di stazionarie, con quella piccolina che forse era corta, la piccolina che era lontano dalla cosa, andava bene, stazionare non è aperta. Con la 2001, niente. Se tu pigliate e coricchiate l'antenna dalla parte opposta, roba, allontanandola, anche se la coricchiate, non avevi più stazione, ma come l'avvicinavi, a mettere la dritta, avvicinavi lì alla resina, le toglieva tutta l'impedenza, non so che cosa, e stazionare salivano di brutto. Allora io me lo metto nel parafango di davanti, il letto, c'è già tutto pronto, cioè diciamo metto, c'è già tutto pronto, posso solo attaccare, c'è anche l'alluggio per attaccare il baracchino, probabilmente non la 48 perché c'è una staffa similare alla 48, devo solo mettere l'antennino e il coso, il verticale, perché adesso è già piazzato dove è fisso, ma non è per adesso, ma una prova già la farò, ma se la metto un'antennina piccola, non sicuramente antenne grandi, che sono scomode e basta, tanto me la potete usare di farmi sentire, è solo per il gusto male, se vai qualche sera in giro, e ci a vedere come mi ascolta, perché va in un punto alto. Comunque stiamo localizzando, riprendiamo il giro, avanti Salvatore, per poesia e mia compagnia. Vabbè, stavo aspettando anche il meglio. Fa piacere sapere queste cose di questi collegamenti. Certo, già che dall'imbarazzo deve essere più semplice, però io non veramente, la cosa lì non ho mai sentito nessuno, la sento è dall'imbarazzo. È strano, perché prima andavano tutti a uso, mi ricordo per i BS si saliva a uso, e l'imbarazzo è vero. Io sono andato a Usido, da Usido. Sono arrivato a Roberto Rapido, che era a Ottana 9.5 dalla punta di Usido, con la Turbo 2001. Tu non va bene, ma l'uso è mitico. Ok, riprendi, chi c'ha Franchetto, riprendi Francesco Giuseppe. Franchetto non lo sento. Riprendi Giuseppe. Sì, niente, era giusto per ricollegarmi un attimino al discorso dell'antenna. Io devo dire che sono soddisfatto della Midland che ho preso da poco, è un 60 cm lunga con la calamita e ti posso dire che sto abbastanza bene. Aspetta un attimo, ma per dove ce l'hai per la vettura tu questa con la calamita? Sì, lui, per la vettura, e mi hanno detto che sto bene. Allora, sì. può andar bene, Giuseppe. Allora io trovo per tanti anni, ne ho fatte tante, Giuseppe. Scusa, adesso torniamo sempre al discorso delle antenne, ma forse era molto interessante anche ascoltarle queste cose. Giuseppe, ne ho fatte tante, ne ho prove, provo, anche adesso stamattina ho fatto le prove. Io ho un'antennina adesso in questo momento in vettura che ho 80 centimetri, ma detto è tutto complessa, è 80 centimetri questa antenna. Oh, io l'ho provata con la base magnetica, uscivo, sì, mi ascoltavano ma molto basso, no? Controllavo il stazionale, ce n'erano parecchi, una cosa e l'altra. Allora, con la basetta fissa al telaio, alla capotta, cambia tutto, è tutta un'altra musica, l'antenna è tutta diversa, risuona diversamente, non ci sono più stazionarie, c'è una ricezione migliore, ma io ho provato anche in cambio, ho fatto tante prove, ho provato diverse volte. Con la calamita sì, funziona perché funziona, però ti toglie parecchio, ti dà qualcosa di stazionario e più ti toglie molto sia di ricezione che di trasmissione. Senti, ti volevo fare una domanda, visto che sei molto più esperto di me in materia. Ma questo 48 che ho preso io, quando avete moto il camion, eppure la radio è schermata, è tutto perfetto, però sento girare l'alternatore, sento i finestrini elettrici quando li apparto, ma sarà difetto di antenna secondo te? Positivo, ma perché c'è la base magnetica tu nel camion? No, lui, ho preso una Midland, non so che cosa sia, però l'ho piazzata sulla capota, però secondo me io ho grossi problemi d'antenna in quella macchina. Sì, non ho capito, tu l'antenna ce l'hai attaccata alla capota senza base magnetica o con la base magnetica? Senza base magnetica, lui. La massa come l'hai messa? La massa deve essere una massa buona. È tutta una questione di massa, perché se tu senti molti rumori è questione di massa. Infatti ieri stavo rientrando da Nuoro e così ci stavo un po' pensando a come poter sistemare questo ronzio. Effettivamente pian pianino anch'io sono riuscito così a grosse linee a arrivare che sicuramente la massa. Sentivo, tu a parte che ti devi ricordare una cosa, tu come l'hai fatto? Diretto dalla batteria o hai messo un alimentatore da 24 a 12, a 13,8? Cos'è che hai fatto? Io niente lui, perché questo il 48 Lecce, il Multi, fa da 12 a 24, ha già lui un trasformatore interno. Ho capito. Tu c'è quello lì, allora devi passare da pompone. E ti dice lui un consiglio come fare. L'ha fatta già di pompone. L'avevano fatto delle modifiche, l'avevano fatto mettere la camera eco a dentro l'apparato Gianni Gippone, questo amico, e giustamente dovrebbe, non funzionava più a 24 ma sì a 12 perché la scheda eco tutto ha bisogno di connettere, è stato un po' modificato dentro. Prendevo un po' e detto no, c'è questo, deve funzionare a 24, collegano a 24, attacca a 24 e si è bruciato, sciolto tutto. Io ad esempio, lui, ho provato con Tesser e tutti mi dicevano che la radio del mio camion usciva a 12 volti, invece la radio è a 24. Quel modello lì, sì, lo davano quei punti lì al riflettore, ti ricordi? Non so se è uno di quelli lì, funziona a 24, sì, hai ragione, sì, quello funziona a 24 e va bene. Sai cosa dovresti fare, Giuseppe? Dove c'è l'alimentazione? Allora, la massa prende la data, deve abbollonare al telaio, la massa dove l'hai presa? Tu non da quell'impianto che ti dà il camion, tu prendi a bollonare la massa, prenditela da con un cavo un po' grosso dal telaio, proprio un bollone, una bollona c'era la massa, non farla molto lunga. E il filo della corrente prende la 24 ma un po' grosso, non ti collegare a un filo fine. E se poi è un filo che viene a 24 da altre cose che sono centraline e cose del genere, giustamente ti porta il rumore. Invece se tu questo filo, il cavo lo prendi direttamente a 24 dove arriva dalla batteria, è meglio, capito? Con un cavo un po' grosso. È meglio. E poi cosa ti conviene fare? Gli metti una cosa di ferrite nei cavi tra quello di massa e quello di corrente. La ferrite è quella diciamo quella palla che c'è nel computer, nella corrente, prima dell'ingresso del computer, ci sono quelle cose rotonde, sembra caramita, quelle ferrite. Quella per togliere le radiofrequenze, ti elimina un po' il rumore delle moto, un po' quei rumorini lì che tolgono. Infatti non riesceva a capire perché passano le moto a fianco al camion e sento il loro volano girare dentro. Positivo, ci vuole quello lì, ci vuole, mettila ferrita e vedi che te lo elimina un po', non del tutto, ma per esempio io non ne sento di questi rumori, dai, io l'ho eliminato, e la macchina mia quando ho messo il primo 48 come l'ho attaccato sentivo di tutto e di più, Ho capito lui. Giuseppe. Dimmi. Ma detto Luigi, la cosa fondamentale è utilizzare un'alimentazione indipendente, cioè direttamente dalla batteria, tra lenti e dopo di lì. Ci sono anche i cavi di alimentazione schermati, tra parentesi, e tanto grosso e potente tu non credo che ne usi, per cui puoi utilizzare anche i cavi audio, quelli già schermati, che hanno già una calza protettiva, per cui un po' di quello lo elimini. Dopodiché la carcassa dell'autoradio, del baracchino, sulla carcassa dove lo fissi, ti riportati un filo di massa, come ha detto Luigi, e lo attacchi a un punto separato, sicura massa pulita, che non ti serve niente, non è necessario che lui il cavo grosso, tanto sono piccolissime tensioni di pochi milliampere, pochi amperati, per cui basta anche un cavo non tanto grosso, e lo porti direttamente a un punto di massa, e vedi che un po' i rumori vengono in me. E poi, ultima ipotesi, come ha detto lui, ci puoi mettere quelle ferrite che mettono nei computer, sono delle specie di magneti che servono un po' per attenuare, se no vedi così bisogna venire schermando l'alternatore, c'è un condensatore, lo metti alla partenza di lì vicino. Ok, ho capito, e niente, non mi rimane altro che provare queste soluzioni. Niente, non è che te ne esci così, no? Devi pagare il caffè a tutti pure, noi non è che possiamo dare queste informazioni, queste cose così. Bisogna qua, non è che te ne esci così, no? Almeno un caffè a tutti devi offrire. Ma lui, e questo sarebbe il minimo, e sai che non c'è assolutamente problema, ci mancherebbe altro. Giusto, Roberto. E poi ci sono anni di studio, non ti credi, cioè devi anche riparare lo studio, cioè noi queste informazioni te le diamo così, io per dire ho dovuto comprare il libro, io ho un libro su questa eliminazione dei disturbi impulsivi, si chiama, saranno roba di 200 pagine, lì devi pagare anche percentuale del costo dell'acquisto del libro, ma così Giuseppe. Infatti, Robè, è quello che stavo pensando, perché ho detto, sentire Roberto che sta viaggiando così tranquillamente, spiegandomi queste cose, vuol dire che c'è anche sapienza dagli studi. Anni e anni di studi, cacchio, non esageriamo, sono veramente eccellente, molte volte queste informazioni puoi le senti anche come ha detto Luigi, uno ti dice una cosa e poi piano piano le acquisisci. E comunque a me, non per il baracchino, mi ha capitato gli stessi problemi all'epoca nelle macchine, quando non erano schermati i cappucci delle candele, l'alternatore, eccetera, eccetera, sentivi di tutto, soprattutto quando mettevi degli amplificatori di potenza nelle autoradio, amplificavano quel piccolo disturbo che c'era ancora. Purtroppo quei rumori estremi, quelli impulsivi dalle moto, quello sarà un po' difficile eliminarli, perché quelli a volte non c'è dei filtri, il baracchino, per dire, molti hanno l'NB, noise blacker si chiama, e un po' te li attenua quello lì, quei rumori impulsivi, però ci vuole un filtro particolare. Non so se riesce a toglierlo, mettendo solo la ferrita. Però stiamo come polizzando, adesso io direi di far parlare ai vecchi CB, iniziamo dal più vecchio e poi dal meno grande, scherzo, avanti sono fatto. Io l'ho visto fatto con i miaroni, i croci, sottomesso. Dalla batteria, sai cosa toppano? Che cavo toppano? Quello morbido, il capo della saldatrice che è per saldare, capito che fa? Quello da, mi sembra che sia da 12, grosso, morbido, dove c'è tutto quel rame. Ecco, quello lo fanno dalla batteria, portano sia la massa dal telaio del camion, signore, e altro. Quel capo lì, quel capo grosso lo portano e da lì ti attacchi tutto la. Io per esempio ora adopero l'alimentatore di 13,4 amperi, io adopero quello in camion, e anche quello ti aiuta molto. Comunque l'unica cosa è avere questi cavi, almeno dalla batteria, se trova di quel camion un po' schermati, si ammortizza molte cose. Poi sono due cose fondamentali per togliere quei disturbi delle moto, delle alternatori. Devi intervenire all'interno dell'apparato, Robè. Ci sono un paio di fili che loro cambiano e tolgono di quelli fini, sottili che hanno tutti i baracchini che fanno le pomelle e via dicendo, no? Prendono di quei fili e li mettono di quelli un po' leggermente più robusti, di quelli un po' stermati, di quelli morbidi, appena appena più robusti, li cambiano tre fili di quelli lì, e staccano tre fili di quelli e li mettono di qui, e elimina tutti i rumori che esistono, che possono esistere, e il baracchino diventa molto quasi neanche QRM, per esempio. Allora, poco fa avevo fatto intervenire, però veramente ha parlato sopra. Adesso facciamo riprendere il Vicky CD. Avanti, Salvatore, le puoi già. No, stavo ascoltando perché c'è il Peluzzo che sa poco di queste cose, Robe. E comunque ho visto quello che si è preso un attimino, l'ultima generazione dei baracchini, quello della Intec, ma molto bello, c'è un sistema di attenuazione dei rumori, lui, ma veramente bello. Diciamo che la tecnologia è andata anche da quell'altro, non per dire, l'Intec a livello di ricezione hanno pochi eguali del Salvatore. Io gli ho fatto una prova del 9. Allora io dicevo a Giuseppe che quasi nessuno a parte anni l'ascoltava, io lo sentivo proprio piccolino con il 440. E poi che proviamo con l'Intec, che c'è una stessa antenna, ho avuto un'antenna. Con l'Intec lo sentivo, non dico meglio, ma quasi come il 440, uguale, non c'è differenza. Gli altri baracchini nemmeno, non c'è niente confronto, cioè c'è una ricezione l'Intec, l'unico problema magari in coso, in trasmissione non è un granché, però la ricezione è eccezionale, c'è un sistema di filtraggio allucinante, almeno quello che ci dico stazione base, c'ha un sistema senza moltiplicatori di frequenza come erano i vecchi baracchini di vecchia generazione, si può la conversione diretto e si elimina un sacco di imperfezioni, per cui a livello di ricezione è come 440, non li posso dire di meno. Non è grande, ma fatto bene, il fattore di posto di ora, sacco bello, ma la tariffa, cosa c'è con quel sistema che ti abbatte, com'era che mi stavi dicendo? Perché io ci ho aumentato lì. Danni, sì. Fa paura avete visto, sì, questa è colpa tua, vero me. Colpa mia, vediamo se è rimasto Falchetto, se sono rimasto Falchetto, avanti Falchetto. Falchetto è tornato al nido, Gianni non c'è, Natalia non c'è, allora ripiloghiamo, c'è Salvatore, Luigi, Giuseppe e io, e Bu, ho fatto di un'altra, avanti chi non ha nominato. No, no, ci siamo solo noi, no, continua che, continua a rompere, perché sai, dare anche delle, diciamo, dei consigli, è utile, specialmente quando uno non riesce a arrivarci, è importante che quei dici, guarda, io lo uso da così e lo stai a perdere tempo. Per esempio, domanda, ma se io quello che voglio fare in macchina lo voglio fare sull'impianto e mi collego con la presa CBC, che c'è la CBC, va male, non è? Non è sconsigliabile, può funzionare lo stesso, però è sconsigliabile, è sempre bene fare un'alimentazione separata con un fusibile suo dell'elettricità di corrente giusta, ma la chi non conta sopra 2 ampere, ne metti uno a 2,5, in modo che c'è sempre meglio un'alimentazione separata. Poi da dire un'altra cosa, c'è un'etichetta riguardo di disposizione dei cavi, può cambiare anche il disturbo, cioè dire, io ti posso dire perché ne ho provato in tutti i modi, ho letto tanti di questo libro che ci sono un sacco di informazioni, parliamo di autoradio che è ancora peggio, perché non l'autoradio è molto più selettivo per i disturbi, ne senti ancora di più. Passare l'alimentazione, per dire il cavo di alimentazione, farlo il più breve possibile, prima di tutto. Direttamente all'apparato, non senza fare i giri strani lasciando cavi in più, perché se li fai degli avvolgimenti può creare ancora amplificare ancora più disturbi, naturalmente se poi attacchi degli amplificatori. Per dire fare il percorso più breve e provare le due posizioni, per dire da sinistra verso destra o viceversa, e vedere se per caso si attenuano i disturbi, perché molte volte basta ascoltare il cavo di una posizione, per dire, anziché farlo partire dalla parte del lato guida, lo porti dall'altra parte e senti meno disturbi, possono essere anche fondamentali di queste cose. Chiedo scusa Roberto. Sì, dimmi. Ma stavo pensando, quei cavi che si usano per portare corrente gli amplificatori che in genere ci mettono sotto il sedile o nel bagagliaio della macchina, possono andar bene per alimentare il CP? Assolutamente sì, tutte le presenze, più cavo grosso c'hai e meno assorbimento, cioè meno resistenza al cavo, per cui te ne passa più corrente, teoricamente, naturalmente parliamo a parità di dimensioni di cavo, poi ci sono cavi e cavi, ci sono anche cavi di scarsa qualità, poca percentuale di rame, eccetera, eccetera, parliamo di due cavi uguali come materiali, più aumentano la dimensione della sezione e più aumentano diminuisce la resistenza, la versione è proporzionale, in parole del povero, per cui più cavo grosso usi è migliore, e sicuramente meno disturbi, perché c'è un isolamento anche di conseguenza più grosso. L'idea è avere cavi grossi, quelli di alimentazione di grosso e potente, di amplificatori di autoradio, di castello, parliamo per la genere, l'idea è perché quelli sono fatti apposta, sono schermati, hanno anche una casa protettiva, hanno una percentuale di rame molto ma molto elevata. Poi se poi usi potenze enormi, a quel punto bisogna stare anche attenti alle centraline, e lì ci sono i condensatori di accensione, di spunto, perché tu quando usi i lineari da 1000-1200 watt devi stare attento alle centraline del camion o delle eventuali macchie, e lì vengono i condensatori di spunto, che adesso non costano neanche eccessivamente, però non so se l'avete mai visto nei piatti dell'autoradio, quelli belli grossi che sembrano dei cilindri, delle bottiglie, da un fara ad un fara e mezzo, eccetera, eccetera, e quindi è ancora meglio se non parliamo di impianti normali, stiamo parlando già di cose oltre un kilowatt di potenza. Ho capito, Robè, dai, avanti Salvatore. No, no, è proprio, cioè, va bene parlare di questa cosa, ripeto, sono consigli che poi, secondo te, tutti magari ne capiamo in queste cose. Io ti ripeto, me la volevo voglio ripiazzare in macchina, però non mi capo, farmi un impianto, no, mi dà fastidio portare cavi, cavetti, anche perché non è che sia sempre, tanto, per quello che uso io va bene, metto la CVC, lo attacco a CVC e vai via. No, vabbè, va benissimo, magari metti un fusibile di scorta, utilizzi quella roba lì, però non devi attaccare altre cose naturalmente, perché se poi inizi a attaccare altre cose, se c'è anche l'autoradio sullo stesso cavo, c'è anche baracchino, quello alla fine un po' scala, perché sono cavi che saranno da 2 mm e mezzo, non di più, quei cavi di alimentazione della CDC, non di più, per cui se inizi già a metterci altre cose sopra, alla fine inizia un po' a scaldarti un pochettino, a quel punto i disturbi li senti veramente, però se è solo come dire, farlo per uso così per divertimento va benissimo, io quello di impianti a regolare, tipo camion e cose del genere, dove usano molte volte potenze più elevate, oltre che alimentazioni più elevate, per cui bisogna stare anche un po' attenti, perché se no ci rischio che fai danno. Io ho visto nei camion addirittura mettono finali da 1000-1200 watt, doppie antenne, non so se l'hai mai visto, Luigi, penso di sì, con un'antenne doppia a turbo 2001 collegata insieme alla una con l'altra. È positivo, l'AVA, mettono l'AVA, sono delle ultime antenne, quelle mettono abbinate, ma non lo fanno qua, in Sardegna no, qualche amico ce l'ha fatto così l'impianto, e devono essere uguali le antenne, mettete nelle stesse posizioni, con le stesse strappe, sia da una parte dall'altra. Di solito le mettono l'anteriore, le mettono nella parte posteriore, e sì, qualcuno lo fa, però non lo so, ma adesso fanno dei lavori o se sono su le contenti che ti aprono, cioè dentro l'antenna, no? Per esempio la 2001 c'è la carica, dentro la carica, la molla, come la vuoi chiamare, in cosa, lo ci metto il rame, quello lo fanno in due, la dividono in due e fanno una parte gliela fanno più vicino e una parte la fanno più, divide in due la molla, la fanno, capito? La fanno in due parti, invece di essere unica in due parti. In poche parole, cosa succede? All'arte da una parte la fanno più larga, soprattutto della parte di sopra, la parte di sotto, le auto costruiscono, mi capisco? In poche parole, siccome adesso tu in camion, come ce l'ho io ho l'8001 in camion, l'8001 c'è omologato, l'8001 c'è le fate laterali, c'è tutto, c'è un po' di canali in più, e allora tu cosa? Elimina un po' di stazionare, ti puoi spostare nei canali anche in banda laterale dove vuoi, e autocostruendo l'antenna in questa maniera tu riesci a modulare bene su tutti i canali, hai capito? Ti regolano, come si chiama, ti riesce a regolare meglio la cosa, come si chiama, l'impedenza dell'antenna anche se ti sposti di frequenza, ti allargano la larghezza di banda dell'antenna. Sì, ma più di tutto vedo che ho visto modificata la 2001, io ho capito, prendo la carica, apro dentro, la dividono, la molano, la fanno in due cose, la forano, fanno il pulire, fanno doppia, una parte rimane più cose, non lo so, con un rendimento d'antenna migliore, non lo so, comunque le eccelli fa questo Leonardo sua vicino a zona di Mantova, la zona di Mantova e Leonardo, e poi ce n'è un altro, c'è questo Carmelo Macisse lì, la zona di Milano, che le fa, ce ne sono tante che costruiscono, costano care, le autocostruiscono, capito, le rifanno loro le antenne, per avere, le allargano di fanno, non so come lo vuoi, per andare come hai detto tu, dai, per spostarti tu in altri canali, capito? Mia mamma ne fanno tutti pure, non c'è problema. Figurati, noi siamo in Italia, guarda se vai in America. Comunque, l'801 è un bellissimo baracchino, a me mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto un paio di anni fa, la GDC, c'è anche per poi scrivere come il baracchino, ma è così lui. È positivo. Il mio è mostruoso, questo è omologato, cioè nasce con quattro fatti con le bande laterali, capito? Io lo tengo in cambio, non a casa, a casa non lo tengo, si potrebbe, lo puoi tenere, però non lo tengo a casa perché è quello che io parlo da come qua con Gianni Doppio Rughe, riesco a parlare quello lì, capito? Quello io chiudo tutti i fatti e sono tre fatti, capito? Le apro tutti e arrivo a 35, di fatti con l'apparato lì, ma c'ha dei picchi allucinanti, capito? Sì, è bello anche, è completo, poi c'ha tutto, non devo andare niente col baracchino. Avanti Salvatore. Già si sente quando parli con quello. Ma ascolta lui, ma non come deve mettere per le antenne, non esiste perché niente per poterle, come ce l'abbiamo a casa, se non creiamo in casa. C'è uno da sé, chi è che è entrato? Avanti, chi è? Siamo attivi a Salvatore. Ciao, è compagnia di Luigi, Salvatore e Giuseppe, poi c'è altre persone, non so se ci sarà, ma comunque avanti di anni capri due per gli amici, dai. Tirarmi fuori, sto facendo proprio un bassino, riesci a ascoltarmi così, dammi conferma se mi ascolti. Sì, vai, non tanto forte, ma già ti ricevo, Gianni, vai, è salvato per Gianni, capito? Ciao Gianni, mi hai sentito? Oggi ho avuto un attimo, mi ha dato il del telefono tuo, per metterci d'accordo, poi ripasseremo anche a Roberto la prima occasione, così che ci metterà d'accordo per provenirci. Ok, ma io oggi devo rispettare, ti occupo abbastanza bene, devo giocare con l'attenuatore lui, ma lo occupo bene, riprendi Gianni. Su in Sicilia e qua da qua in Sardegna E poi niente, poi è uscito il vuoto è leggermente superiore, quasi 2000 watt, il vuoto è della Bias, prima c'era chiama l'altro, ma il Compi 26, c'era Compi 26, il Compi 26 che mi sembra di tornare 900 watt, e adesso ha fatto il vuoto sempre della Bias, sempre a 24 per cambio, quello è quasi 2000 watt. Figurati, diresti che devi usare cavi, cavi grossi e impianti fatti in un certo modo, sennò cacchio distruggi un po' di roba, no? Io sento, non dico tutti i momenti, però soprattutto d'estate, questo camionista dall'accento siciliano, non so che cavolo si chiama, ma questo arriva da tutte le parti, lo senti camminare, è sempre lo stesso, chissà che potenza c'ha quel camionista. Radio Criminale. Poi sente a Tommaso Cimma, che è siciliano, radio crimine della Cozza Unica, Capo Rizzuto, Roberto. E tu ascolti a Tommaso Cimma, un amicaccio mio, dai, Tommaso Cimma che viene, che è sempre qua, che abita in zona di Cagliari, che viene molto qua a Sassari, capito? Poi ascolti a lui, a Tommaso. Scusa, no, mi sono spiegato, non qua in Sardegna, io l'ascolto da lì, dalla Sicilia, tutte quelle zone lì, questo è uno di quelli che è capitato decine di volte di sentirlo queste tratte, sempre lui, magari altri di meno, ma questo lo sentivo sempre, ma per diversi anni, già due o tre anni che l'ascolto consecutivamente. Dalla Sicilia, Peppe Affacino, però quelli che vanno in Francia, stai dicendo, ma sono di Napoli, quel dottor Scugnizzo, Lelluccio Solitario, Mazzianello che si sentono molto, perché dalla Francia arrivano un po' qua, saranno quelli lì. Ma guarda, io non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che si facesse chiamare Bulldozer come nominativo di Baracchino, e faceva forse quelli che stai dicendo tu, perché questo poi arriva la Sicilia, poi molte volte dice sono dalla costa ionica verso non so dove, verso Chiasso, poi non so dove, cioè è uno di quelli che sta sempre girando, però l'accento era siciliano, non napoletano, e mi sembra che si chiamasse Bulldozer. Ma Bulldozer è quello che fa San Giovanni? No, Massimiliano, no, già lo so Massimiliano, no, parlo di uno di Furi. No. Roberto Crimina, Costa Ionica e Bulldozer non ce n'è altro. Bulldozer c'è uno che scende da Cagliari, ma non sentiamo quasi mai, che c'è prima di Massimiliano, quello lì. Con la scritta illuminata Bulldozer, tutte le mattine che lavora con Fara, quello è Bulldozer. Però c'è Cartepilla, Marco Cartepilla, Bodazzi dalla Sicilia. Se no non insisto, però la gente è molto siciliana, no? È inconfondibile. E questo c'è una radio allucinante, tutta piena di eco, effetti elicotteri e cose del genere, ma di quelli che persistenti, neanche fastidiosi per certi punti di vista, eppure un tipo un po', parlano anche un po' maleducato. Eh? No, allora è qualcuno che è qua, dai, che dice che l'amma è qua. Non so, quasi che sia pure così, ma è da contraballe, non lo so. Avanti, è rientrato Gianni, avanti Gianni. Radio Criminale è uno di quelli più possenti che io ho sentito come radio, vero lui? Io stiamo parlando con lui, ci siamo ascoltati sul 42, era lì nella Costa Ionica, ero qua io e stavo parlando in camion andando lì verso Alghero, stavo parlando con lui e abbiamo fatto una lunga chiacchierata avanti ieri mattina, dal camion e lui in camion lì nella Costa Ionica. Cosa che a casa magari non riesce a fare lui? No, io sono per impianto. Niente, no, c'è una propagazione, ti dico. Guarda, siamo spostati siamo spostati nel 47, se la verità. Invece con un altro, con Giovannino Cappellone, che lui ci ha avuto la stazione fissa, ci siamo spostati sul 42 e stavo parlando anche con lui. Quello fa una voce grossa, è una voce grossa che fa modifiche e prepara baracchini, questo Giovanni Cappellone. Oh Luigi? Dimmelo. Stazione fissa a Cagliari, ce ne sono parecchie, cioè tu che ci vai spesso? Allora, ti dico una cosa, ce ne erano tante, chi c'è rimasto? C'è rimasto Luigi al porto, che è di fronte al porto, che modula ancora, poi Paolo fa negli altri canali, Paolo Diavolo che è amico di Walter, che l'ho fatto conoscere a Walter, se lo conosce anche Michele Polverone, sono conosciuti anche con Michele Polverone. che va nei canali, diciamo, delle altre bande, là. E ogni tanto quando mi sente lì che sono delle caglie già entra. Tutti gli altri si hanno fatto la guerra, si sono denunciati a vicenda, era successo tutto un casino e mi sembra che hanno sequestrato, c'è stata una, diciamo, una cosa, hanno sequestrato tutto e c'era Romualdo, c'erano tanti, là, c'era Maria Capinera e si pigliavano a parolacce, quello e quell'altro e ci sono state molte denunce, erano sull'8, sul canale 8. E poi c'era il coso che è stato pure la Maria di Filippi, quello di San Basilio, e anche quello è sparito, quello l'hanno sparato l'antenna. E in poche parole so che hanno avuto questi problemi, sono denunciati un po' a vicenda, non so cosa sia successo, è stato un po' di casino tempo, quasi un annetto fa, e sono spariti, non è che sono spariti tutti, la stazione fissa a Cagliari c'è rimasto solo questo Luigi, lì al porto e basta. Ma dov'è che ci sono dei cibi, perché zona di Olbia, di Oristano, di Roma, dov'è che ne hai visto presente di stazione fissa? No, la stazione fissa io sulla zona di Oristano ce ne sono parecchie, a Terrata c'è il fisio lì a Marrucchio, che è cieco, è un cranio quello, il fisio, non so se arriva, a volte arriva, riesce a parlare forse con Walter pure quello lì. Diciamo per la stazione è cieco, non vedente questo, però io non so come faccia a trovare stati, a girare queste radio, boom, mi trova subito, a volte sta uscendo un po' male, se riesce a suonare subito a mettere tutto in funzione, chiusa, c'era quello schiacciato, io non so come faccia, o se ho un numero di telefono, riesce a memorizzarlo così velocemente, non so come faccia queste figlie. Poi c'è Fisio Lancia, che è amico di Vittorio Giove, che è stato qui a Sassari parecchio, mi viaggiava e dormiva qui a Sassari e stava a nottate intere parlando con Vittorio Giove anni indietro. Siete sempre sì? Sì. Era una carissima amica e quando mi sentiva arrivare, guarda, Luigi Vulcà, era una cosa, però a volte gli girava male, Gianni, gli girava male, iniziava a parolacce, ma diceva parolacce grosse questa donna, ma era una donna di una certa età, Gianni, era una donna di una certa età, ma quando la prendeva a parolacce, guarda, era una cosa impressionante questa Maria Capinera, che aumentare se ne stiano andando via, sarebbe dovuto, ma io penso che la zona di Oristano sia popolata di cibi, vero? Guarda, Oristano che conosco, Verbonica, fatta molto poco. Il Villa C e zio Marrubio Zanta e a Ura Tirs Achino, ce ne sono tre, fare. Sì, non c'è uscito del radio, c'è il microfono che va a tra. Scuso, cambia microfono, scappa. No, lui non sta uscendo, Martino ne ha approfitto io, sono anche io. Roberto, niente, non può rispondere perché è mancata la corrente elettrica, c'è stato un blackout e quindi mi ha chiamato e non può riprendere. Ne approfitto anche io, passo il correnti che devo lontarmi dalla radio, penso una un'oretta. Ok, mi ha fatto piacere passare un po' di tempo con lui, faccio un saluto circolare a tutti, fratello da Luigi, Gianni, Natalino e Gianni e Giuseppe. Ok, saluto a tutti, io passo in corretti, ripeto anche Roberto è in corretti per motivi di corrente elettrica. Ok, riprendi Gianni, fai già tu. Ehi, ehi, anche a faccia Salvatore, c'è anche a Roberto, saluta la parte nostra, buon corretti e buona serata, dai. E tanti auguri per la Befana. Adesso andiamo a farvi gli auguri, così facciamo incavolare un po' le donne. Ok, dai, riprendete corretti per me. Ciao Salvatore, buona serata. Ciao Salvatore, dai, fatti buona serata, ho cambiato apparato, dai, sperando che questo esca. Sta uscendo adesso lui, però poco fa è che fa cazzo di colpo, è quella cosa sul microfono arrivi, ok, magari la fesseria, perché poi di radio era meglio l'altro, questo qua mi sembra più metallica mi sembra. Vabbè, siamo troppo vicini per giudicare. Ok, sì, grazie per i saluti, chiudo definitivamente, se puoi anche lui io passo in corretti. Ciao, buon corretti, e a lui, questa è più metallica è buona. Va bene. Guarda, stavo facendo da tratti, non si capiva più nulla. Mi hai parlato di ristano, ma non ho capito un caffè. No, vieni. Ho detto per due. Ti ascolti la radio criminale. Non c'è Roberto, ho avuto un blackout. Comunque ne approfitto anche per fare i corretti che mi ricordo qua. Più tardi se è possibile. Ciao Natalino, buon riposo, dai. Avanti per Paolo. Roberto è ha chiuso del tutto perché è mancata la luce. Ti è mancata la luce? Va. Guarda il mio segnale, Giuseppe. Allora tu sei Santiago 9, Radio 5, cambio. Beh, io non ho toccato la poco fa, lo so. Sì Gianni, ma infatti ogni tanto hai degli sbalzi di frequenza, ma niente di strano, potrà essere anche la giornata. Scusa, mi chiedo, cioè, non è 48? Sì, il 48, il multi. Sopra la cappotta da Santa Maria La Palma, io al bivio di Foggia, ma com'è riuscivo a parlare con me? L'ascoltavo e con l'accento. Ci credo lui, sai perché? Questo modificato con quella antennina che ti ho detto io, quello che con la calamita esco bene, è da casa che non riesco a uscire con il centro. Ah, c'era qualcosa da notare? No, già, che cosa ho modificato? Nulla, gli apri la radio, gli fai uno fatto come questo qua, questo glielo ho fatto io, questo esce 9 watt, esce. Gli ho fatto il ponticello, gli ho tolto le cose vicino al finale, gli ho fatto il ponticello, gli ho aperto il radio ed ecco che c'era 9 watt, e così avevo fatto quella alla 100, la stessa cosa, da 4 watt, e cosa è passato a 9 watt l'importante bianca, eh? Non li dati nemmeno 4 watt, vero? Chiedo scusa, ma il Cagliari mi sa che ha accorciato le distanze, cambio. Cosa? Le distanze, cambio. Perfetto. E Cagliari 1, Roma 2. Regolari. Su punta di battuta vediamo, sia Zemarini sia Poetino. Ma è pronto per la ricorsa. Comunque, se vuoi un buon baracchino, ma un buon baracchino però, devi sempre rivolgere a Gigi Vulcano, se vuoi un buon baracchino, vedi come quello che c'ha adesso in questo momento Pierpaolo, quello glielo ho dato io, se vuoi un buon baracchino così sempre a me ti devi rivolgere. Sì, già me l'avevano detto lui. Positivo, per il cambio, se vuoi un bel apparato per il cambio sempre a me ti devi rivolgere. Su questo non ci sono problemi, Luigi. Quello che ti può accontentare al massimo sono solamente io. Positivo, Luigi. Ma c'è due, vai ancora, Gianni, ci sei ancora? Sto uscendo con uno di quei baracchini piccolini, con ala 199, di quelli piccoli, con 40 canali, modificato, fatto qualche lavoretto da me, dai, aumentato un po' da me, toccato da me, vedi, e molti dicono, ma sta uscendo, vedi, ed è un baracchinetto di niente questo. Sì. Tutta la ruota, però in questo momento il Cagliari ha pareggiato, Cagliari 2, Roma 2, e fra 2 minuti sono sicuro che arriva la terza fedetta, cambio. Speriamo da parte del Cagliari. Sì, no, sto facendo adesso, se mi ascolti bene anche con questo, è un baracchinetto di nulla questo, è un baracchino da 4 soldi. È un baracchinetto di quelli piccolini, capito? Di quelli che te lo metti in tasca. Ok, lui, allora dimmi, quando se ne deve disfare lo metto su nel camion, visto che va così forte questo baracchino, camion. Thank you. da te come arrivo? No, perché? Ti sto passo di radio, lui. Piano 21, gamba. Come ti arrivo, adesso? Ma c'è 9:10, dopo. Attenzione, piano 21, gamba. Sta facendo la batteria, sennò proprio non sento più a nessuno, pure. Io non mi ti sento. Ma mi senti te a me? Pronto, continente. Facciamo un più l'antenna sul tetto, buh. Ciao Luca, io ti ascolto perfettamente, chiaro e forte, forte, chiaro, chiaro e forte. Ciao Nelfani, anche buonasera. Auguri a tutti, Nelfani, cambio. Contraccambiati, accetto gli auguri. Ma qua non mi sentivate perché... Sai come, no? Fratello, questa antenna fa finire brutta. Mi sono cambiato il palo, ma non ui. No, ho un palo le staffe. Devo salire solo la controlattina perché sono arrugginite. Ma non li fate nulla, Lucci, sono quale. Forse sono al televisore e sono arrugginose, ma non li fate nulla. Ma l'antenna nuova è pesante. Non tanto l'antenna, ma il palo è molto pesante. Che è l'altro, è un copiato. Avanti, l'altro amico. Sembra che sia quello di Sacro Cuore. È positivo. La macchina? Capri 2, cambio. Di Bulldozer. Sono più lungo, buonasera, ben ascoltato. Faccio la destra, che c'è una volta? Buonasera. Compagnia di Pierpaolo, Roberto Quadrato, Gigino Vulcano, Giuseppe da Sacro Cuore, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma non vorrei aver dimenticato nessuno, va per chi va. Ciao Luigi, ciao Pierpaolo, ciao Giuseppe, non lo ascolto. Ciao Luca del Monte, poi c'è Capri 2 mi pare. C'è tutto, ciao Massimiliano, sei tutto, come dire, chissato o no, tutto a scariche. Tutto a scariche? Ti senti già, senti sotto, vai, parla Massimiliano. No, noi vogliamo portare. Non lo so, però ci riuscirà la microfonia, non lo so. C'è una cosa che non può avere il microfono, qualche filo che sta andando a farsi benedire. Comunque c'è una piatta Massimilia, saluto lui. E per sentire, stavo dicendo, un amico di... Adesso mi dà ciò a Pierpaolo. Se c'è un amico di Sacro Cuore, lì, se in VM, o a casa. Postazione fissa qui a Sacro Cuore, cambio. Adesso arrivi benissimo, prima di mettere la terra qua, Non so, come ricevi bene a me? Come ricevi l'amico di Sacro Cuore, bene? Scusa? Sì, un secondo solo e sono al telefono, cambio. No, ok, dai, avanti, per fatemi, vai. Ecco, prendete il telefono un attimo. Eccomi di nuovo, chiedo scusa, cambio. Bulgarie. Poi Gigino Radio, poi Vulcano, brava. Ciao, anche Roberto, siete in tanti, Un saluto circolare a tutti, circolare. Ieri mi pare che con la bambina, non me ne ricordo più. Ho capito lui, aspetta un attimino Salvatore, è lui. Gli auguri ti avevo già fatti, Luca, non me ne ricordo più. È un po', di nome, mi vuole manco di te lui, pensando. Comunque auguri lui, se non ce li siamo fatti. Ascolta, vabbè niente, volevo sapere, io ho questo su Facebook, ho questo Luigi Vulcano, però volevo capire chi è, adesso ne ho un altro, c'ho tipo una foto, un'immagine, una qualsiasi immagine che ti aggiungo, perché non so chi è l'altro Luigi Vulcano. Che ti ascolto, Gigi Vulcano comunque, la Gigi Vulcano, non, c'è Luigi Vulcano e c'è Gigi Vulcano. Tu che sei? Gigi Vulcano. Oh, ok, vai Massimiliano. Adesso no, l'Ester, hai cambiato il microfono, cosa hai fatto? Ho cambiato proprio l'Ester. Adesso vedi, ultimamente l'ha fatto nuovamente appena appena, come un disturbo di microfono, ma l'ha fatto in ultimo, te l'ha fatto nuovamente. Ascolta, se muove il campo così lo fa sempre. No, ma muove il campo, non l'ha fatto adesso. Da Farroggio, allora. Che fa? Non è tutta roggia la radio, vedi un po'. Non l'ha fatto Massimiliano. Fatto? Ma cos'è il problema di campo allora? So cos'è, guarda il Michigi, non sia troppo affetto, non lo so, boh. Qualcosa, un po' di GRG nel microfono ci vuole dove chiude nel coso, nel contatto. Mi ha fatto, a te non arrivo, graziante, com'è? Vedi un po'. Forte e chiaro, io non sento niente, Ma si vede, a secondo, ci vede a secondo un po' di scariche. Perché la microfonia, Luca, è sempre questa. Non ho toccato nulla. Michigi, alle ore 2, l'eco è alle ore 9. E niente, non lo so. Questo è freddo, lo scaldo non lo fa più. Sarà anche quello, dice, sarà freddo ancora a farlo scaldare un po', Massimiliano. Siamo a curarci che sia l'umidità, che ci ho letto la macchina. Adesso in macchina sì. Allora, in macchina sono, non sono a casa. Allora, si sono spostate un po' le stazionarie, lo fa anche se c'è un po' di stazionarie, come muove l'antenna pure, lo sai. Dici che c'era quello, non lo so. Ma non sempre però, attenzione, non sempre Massimiliano, non sempre. Massimiliano, te lo stavo facendo anche l'altro giorno, però stai riferendo, domenica, me ne sono accorto io. Infatti te stai per quello, guarda come sta uscendo. Cioè la modulazione è nitida, no, poi alla fine va e si sente un tipo Sky. Ecco. Ehi, ho già, è un attimo il becco. Ho già, sì, quello lì lo so perché ho cambiato il microfono, capito? Questo qua è il microfono nuovo, nuovo di pacca. Invece con l'altro microfono mi sono sentito anche io andavo un po' a scarico, ma perché c'era quella vittina che tiene adesso gli ho messo questo microfono nuovo, ma lo sta facendo ancora, allora non lo so. E il watt va a regolare anche. E il watt, sto uscendo con 2 watt. È un trucco, aumentala appena appena. Ha un buchi, aumentala appena appena. Guarda, adesso gli ho aumentato un pochino, vedi un po'. Non c'è niente attaccato, si è liscio o si è attaccato? Liscio, liscio sono, senza attaccare niente. Prova a lasciarlo così, a vedere. Entrare il break, avanti col break. Sì, dai, salutoni Bordonza, salutoni Gianni e salutoni Vulcano, riprendete. Ciao Falchetto. Tu devi fare così come diciamo la Cavattone Barra Agricola, invece devi fare tanti nomi, salutoni a tutti, a tutta la ruota, così sono contenti tutti, perché poi ce n'è qualcuno che non hai fatto il nominativo, che non è, forse non hai ascoltato, a me non mi ha salutato, capito? Invece tu fai salutoni a tutti, a tutta la ruota, e sono tutti salutati. Non sono cambiati, dai, salutoni a tutta la ruota, cambio. Non so perché il Falchetto non è la panafusta, ma è una cosa involontaria perché lui non sa che c'è tutti nella ruota, hai capito? E allora meglio così se ne si fa prima e tutto così. C'è anche Giuseppe, Giuseppe anche tu sei salutato. Sì, sì, tranquillo, ho capito perfettamente, cambio. Scusi, c'è anche a me poco fa, Gigi, io ho sbagliato, mi sono dimenticato di te, scusami, ma non ho fatto per male. Sì, lo faccio pure io, me lo so, però io correggo agli altri, non mi correggo io a volte. Oh, riprendo io un secondino, dai ragazzi, che scendiamo ancora dalla PM, se ne vogliamo un pochino riprendo da casa. Ritenetevi tutti salutati, un saluto a tutti, dai cordiali, a Bulldozer, ciao ciao ciao. Ciao ciao Massimiliano, ci sentiamo. Comunque dovrei essere quell'affare della potenza perché ce non sta più facendo. Ciao, Bulldozer, dai, state prossimine. Oh Giuseppe, vedi un po' se ti piaceva quell'apparato di Massimiliano. Lui è passato da Gigi Vulcano per farlo così con l'apparato. cosa stavo pensando, Gigi, se si può fare qualcosa per il 100, se riusciamo a recuperarlo, cambio. Certo, tu a te cosa fai? Collegalo anche quello 24, vedrai che quello gira meglio dopo. C'è cioè, più corrente gira meglio, eh. Oh, sì, no, quando passa Elena, la nasca c'è anche più del cuore di un mezzo. Devo scendere a prendere mia moglie e come rientro qui provo a riattaccarlo e vediamo un po' se riesco a uscire. E prova a vedere, prova, se no aprilo, vai vicino, apri tu, togli il coperchio, vicino faccio il modulatore, vedo che ha già vinto e duro di cose, dai una giratina, gli dai una trettina e vedi che aumenta. Perfetto Gigi, ok dai, e a tutta la ruota e niente, buona continuazione a tutti, ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Ciao Giuseppe, alle prossime Giuseppe. Positivo, positivo. Oi, oi, ai, Piero Compressore. Vabbè, dai, mi piace segnare a te che un pugno mi entrasse in mano. Invece un giorno stavo parlando e stavo segnando qua. Adriano Spillo, vabbè, Adriano Spillo ci parliamo sempre. Nino Radio Scintilla. Non in comando, Giacomo Fuggitivo, vabbè questo c'è anche il numero di telefono, Franco Discovery, sì, un sacco di nominativi, segnatevi giù. E tutti quelli del confine? Un giorno stavo segnando tutti quelli che stavo parlando, che parlava in propagazione, e adesso ho trovato qua sotto, e... perché a volte mi dimenticavo il nome, capito, stavo parlando con loro, allora me li segnavo per non dimenticarmene, capito? Che prima si faceva così, per onde evitare di dimenticare gente, si segnava nel foglio, quasi tutti quelli che avevano la baracchina avevano un posto per scrivere, una scrivania, una cosa, si mettevano il foglio sopra, scrivevano tutti quelli che c'erano in rotta, man mano che passava il Mike, spuntava, e poi quando facevi i saluti ti leggevi tutti i nomi così non sbagliavi. Allora, mi tratta in mano anche un altro foglio, di Giancarlo, di Giada Candeghi, mi dice che si fa foglio d'acqua, quindi buone d'acqua, non saltano gli elementi. Allora, vediamo qua, proprietario, signor Luigi, vediamo un po', lavori eseguiti sull'apparato, controllo alimentatore tenuto a carica 30 minuti, con carico di 10 ampere e risultato regolare, nessun problema. Tenuta per 20 minuti con un carico di 20 ampere, la tensione di uscita variata di circa 0,3 volt, tutto regolare, nessun problema. Ecco, questo tipo di ecco come i Taiwan e ZG, ecco del tipo esterno, non funzionano come previsto sui moderni apparati CB, ma tendono a innescare con un fischio. È stato necessario inserire un relè per evitare questo, invece adesso detto, l'apparato sistemato della modifica di 10 watt, il finale montato non è dato 10 watt. Ah, devo vedere adesso un montaggio scheda, espansione, canale con... Mi sai cos'è? Il travaglio aveva fatto forse a quell'apparato di tarattura generale tutti di Natalino col 48. Ma l'hai modificato? No, tempo fa, tu mi dici, sto trovando qua, di qua sotto me, una scheda che c'è qua, capito, di Giancarlo, di Santa Cantueghi, sotto qua, adesso sotto questi qua, stiamo spostando, già trovato. Quello lì cosa fai, quello che è con Natalino, cosa fai, lo modifichi? No, quello di Natalino, il 48, no, l'ho dato, quello non era mio, no. Quello di Natalino, il 48, è andato via, ce l'ha Nando, capito. Lui ha fatto cambio con il Mubi, l'Inco, capito. Devo dare a Nando, quello ce l'ha Nando, capito. No, l'avevo portato io la prima volta a fare, capito, ci ho trovato il foglio adesso. Nando non ce l'ha rifatto, ma se l'ha detto lui. E c'è il canale sopra e sotto, mi pare 10 watt, quanto è quell'apparato lì? E già va bene. Positivo, questo l'avevo mandato io, con l'alimentatore mio, il switch. Cos'era successo? Lui me l'ha controllato e avevo attaccato io una qualcosa di più... un apparato che mi aveva prestato l'originale, no? Che dava 150 watt, dava quell'apparato lì, partiva da 1 a 150 watt. una radio enorme, enorme insomma. Che cos'era? Non mi ricordo se era un tipo, che cavolo era, o con una radio un po' particolare. E le avevo attaccate, non ce l'ha fatta in cosa e mi si era bloccata, non andava più quell'alimentatore. L'avevo provato a Giancarlo e me l'aveva messa a posto là. Che è quello che ti aveva regalato quella persona? Mi ha regalato un pitrema, quello che poi è morto. Aspetta un attimino, non ti stavo seguendo, Mi ricordo che una persona che l'ha brutta il giorno che c'ero io, che te devo dare un po' di alimentatori, roba che c'ho. E poi ti ho detto che era morto, che lui te l'aveva dato gli apparecchi, no? No, non me l'ha dato, non mi ha dato nulla, no, è morto, non mi ha dato nulla. Una cosa mi aveva dato un alimentatore, mi aveva dato molto prima, che da tanto tempo mi aveva dato, che quello regalato a quello che adopera Rizza, capito? Sembra un ferro, c'è una maneggia, dopo fare un ferro da stiro di vestigi antichi, quello ce l'ha Rizza. E mi pare che io il giorno che è venuto ho già fatto quell'alimentatore lì, e il giorno che è venuto che c'ero io. Questa poveraccia, così ce ne ha dato voi, siamo a sola, insomma.